Comunque voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Voglio iniziare così questa sera. Sentite questo esponente del PDL che si chiama Malan, un amico tuo, Parenzo, no? Lucio Malan. Signor Lucio. Senti, senti questa, senti questa. Lo scopo della legge Severino era far fuori Berlusconi, cioè dopo avere approvato la legge Severino, dopo aver detto che la legge Severino serviva a fare le liste pulite. E l'hanno detto quelli del PDL, perché possiamo andare a ripescare frase per frase, dopo aver detto questo, adesso il signor Malan, il senatore Malan, ci viene a riferire che lo scopo della legge Severino era quello di fare fuori Berlusconi. Ma se lo scopo della legge Severino, come dice Malan, era far fuori Berlusconi, per quale diavolo di motivo allora l'hanno votata? Che noi se proponessimo una riformulazione della legge che specifichi che non può essere retroattiva, il PD voterebbe contro, perché sennò cessa lo scopo della legge, che è quello di far fuori Berlusconi. Sulla questione della, però, della, insomma, dell'uguaglianza di tutti i cittadini, lo scopo della legge l'avete votata anche voi, non poteva essere quello di far fuori Berlusconi, sennò siete dei masochisti. Io non l'ho votato, abbiamo scoperto dopo che lo scopo era quello. Presidente. Malan, abbiamo scoperto dopo che era quello, è che non è che si può prevedere tutto. Al momento, quando fu approvata la legge che prevede la decadenza, ieri Dell'Utri ci ha detto la decadenza deve essere automatica. Lo stesso Dell'Utri l'ha detto, poi ha detto che la sentenza su Berlusconi è ingiusta, ma la decadenza persino Dell'Utri. Cioè, al momento serviva dare un'immagine. Facciamo sta legge Severino che dice che dobbiamo fare liste pulite, così dobbiamo, possiamo presentare agli elettori questa sorta di scalpo, no? Facciamo le liste pulite. Poi uno scrive le leggi, in Italia tutto si interpreta, tutto si può stiracchiare, facciamo il ricorso alla Corte dei Conti, facciamo il ricorso alla Corte Penale Internazionale. Ah. Buonasera Parenzo, buonasera, come stai? Buonasera signor Luciani, molto bene, mi pare questo inizio col signor Malan, ce lo siamo fatto amico per la seconda volta, diciamo, già con noi. Io vorrei capire se precedente questo, vorrei capire se il signor Malan, che noi abbracciamo, gli vogliamo bene, lui non vuole più venire, ci odia, ma chi se ne frega, alla fine possiamo farne a meno, sopravviverò senza il senatore Malan. Voglio capire se ancora ha sotto contratto al Senato, dove diavolo sta, ecco. La compagna e la figlia della compagna. Io vorrei una domanda: c'è ancora questa situazione, sì o no? Vabbè, non voglio, ma non voglio criminalizzare nessuno, per carità, non è che è una criminalizzazione, è una domandina, si può fare una domanda oppure no? Ancora sotto contratto presso il Senato la compagna e la figlia della compagna, sì o no? Vabbè, andiamo avanti perché sono qui squilli. Alla fine, con il nostro amico Rotondi, questo sì, amico sul serio, questo lo possiamo confessare. Tu lo confessi di essere amico di Rotondi? No, cioè, amici sono altri. Vabbè, il solito. Rotondi che si è messo in testa di sfidare Renzi. Ha detto: noi aspettiamo il videomessaggio di Berlusconi, ci sarà, non ci sarà, quello, questo videomessaggio in cui dovrebbe annunciare chissà che, poi alla fine secondo me non ci sarà. Rotondi dice: ho chiesto a Berlusconi di poter sfidare Renzi. Sentite, non è che si senta benissimo, però addirittura ha fatto lui il videomessaggio, cioè non abbiamo il videomessaggio di Berlusconi, per il momento abbiamo il videomessaggio di Rotondi. Lo so, non dovrei ridere, ma rido lo stesso, il videomessaggio di Rotondi fa un po' ridere, diciamolo tutto. Chiesto al presidente Berlusconi, come leader del centrodestra di ieri, di oggi e per quanto mi riguarda di domani, la possibilità di sfidare Matteo Renzi nella corsa per la guida del governo del paese. Vabbè, siamo qui 0000008024 0024, ma la cosa più straordinaria di oggi è un'altra, è un sondaggio che ha fatto il quotidiano Libero. Tieniti forte, Parenzo, tieniti Libero, forte. Grande quotidiano diretto dal signor Belpietro. No, ma tieniti Beautiful Stone. Sì. Com'è The Beautiful Stone? Sì, Belpietro. Ma sì. Belpietro sarebbe E Beautiful Stone, il direttore E Beautiful Stone. Sì, ma qui non c'entra niente, devi sempre leccare il culo alla gente. Aspetta un attimo. Adesso lo massacriamo. E a proposito di leccare, sondaggio più straordinario che ho letto negli ultimi anni. Il sondaggio è questo: leccereste i piedi a Berlusconi per 370.000 euro? Cioè, ti posso assicurare, leccereste i piedi a Berlusconi per 370.000 euro? Tu dici che c'entra, ma siccome non sai le cose, no, ti devo spiegare. Allora, è venuto fuori nella giornata di ieri che Sabina Began ha un contratto con una società che si chiama Infront, grazie a Berlusconi, una società che cura i diritti sportivi, per 370.000 euro. La cifra è stata smentita, non il contratto. Ma il bello è che è una notizia che avevamo già dato noi. Questo volevo dire, appunto, mesi fa. La cifra non la sapevamo, ma sapevamo che lavorava per una di quelle società lì, questo certo. La Infront, che ha smentito. Tanto facciamo risentire la Began alla Zanzara a febbraio. Quindi lei perché non sempre l'ha scelta definitivamente? Perché non l'ha messa al suo fianco? Perché non l'ha scelta come first lady? Ma forse perché io non sono giusta per delle cose. Cioè, tipo per cosa? Non lo so, forse sono diversa. Però comunque un regalo gliel'ha fatto. L'ha piazzata a lavorare agli sponsor del Milan, giusto? La possiamo dire questa cosa qua? Sì, è stato lui. Cioè lei lavora per il Milan, per gli sponsor del Milan. Sì. Pagata dal Milan. Da Infront. Il mio caro ragazzi, è de febbraio la notizia. Sveglia! Febbraio! Sveglia! La cifra è importante, Segnalazione oggi, Parenzo non si sente. Si sente a cazzo, questo lo segnalo subito. Non si sente. Vabbè, chiudiamo parentesi. La Began aveva già detto: se io ho leccato le ascelle, che odorava le ascelle, le ho odorato anche i piedi di Berlusconi. Da qui il mitico sondaggio di Libero: leccereste i piedi a Berlusconi per 370.000 euro? Devo dire che è geniale. Chissà. Io ho portato Shevchenkov nel Milan, sono stata io. E io sono andata con lui da Abramovic e che non lo voleva dare. Quindi lui aveva detto a Berlusconi di no. E io ho visto che Berlusconi era così triste perché lui voleva portare il Milan Shevchenkov. Quindi io sono andata con la mia onestà. Io posso convincere le persone. Ho detto che lui non dovrebbe mai più parlare con il signor Galeani, solo con me. E siamo qui, 800240024, Paolo Ferrero, segretario del Partito della Rifondazione Comunista, buonasera. Buonasera. Lei leccherebbe i piedi a Berlusconi per 370.000 euro? No, nemmeno per il doppio. Ma non è vero, su, ma lei è scannato, sicuramente se le danno il doppio, figuriamoci se una leccatina così rapida ai piedi di Berlusconi non la farebbe. Dai, lei è scannato come me, un po' più scannato. No, però molto di più scannato di lei, però io nella vita ho scelto, diciamo così, di fare le cose che mi interessano e la dignità, e non di leccare i piedi o altre parti del corpo a nessuno. Vabbè, ma è una leccatina così per avere un milione di euro. Uno per un milione di euro potrebbe pure farlo, su, diciamo la verità. Se mi dicessero dai una leccatina al piede di Berlusconi per 370.000 euro, forse gliela do. Da un sacco di gente, i registi dall'altra parte, assistenti tecnici di studio e maestranze, dicono tutti di sì, No, qualcuno dice di no. Ma siete impazziti? Dall'altra parte c'è la ribellione. Esatto, che ormai è tutto finito. Aspetta, alzate la mano da dietro. Alzate la mano. Chi è che dice di sì? 370.000 euro. Solo uno. No, non è possibile. Ah, vede che la dignità esiste ancora in questo paese. Parenzo, tu che fai? Lecchi i piedi a Berlusconi per 370.000 euro? Per 1.000 euro, ma dov'è il problema? Chi se ne frega? Lo leggo una volta, poi gli sputo. Perché dove sei? No. Vado in cazzo. Ma sputare che c'è? Sputare non c'entra niente. Leccheresti i piedi a Berlusconi per 370.000 euro? Sì o no? Oh, ma vattene a zappa la terra. Sì, vabbè, so, lasciamo perdere la terra, però Parenzo, ma senza ombra di dubbio sì. Oh, anche per 1.000 euro hai detto. Beh, tu ti abbassi troppo. 1.000 euro. Per mille, no, 1.000 no, 1.000 no. Io no, 1.000 no. Ma che mi frega, mena. mica devo dire che è bravo, che è innocente. No, io Milan non ce la faccio. Allora, io voglio capire, dalla gente che arriva qui copiosa, qui dietro il vetro qua, leccheresti i piedi a Berlusconi per 370.000 euro? Sì o no? Falli entrare qui, chi c'è là dietro? Mi ha fatti i versacci. Leccherebbero i piedi a Berlusconi per 370.000 euro? Non mi vogliono rispondere, è una cosa pazzesca. Nessuno. Comunque, io per 370.000 euro devo dire sì, leccherei subito i piedi a Berlusconi. Ma non in senso figurato, molti fanno ironia, proprio in senso fisico, non figurato. Cosa pazzesca. Ferrero, è svenuto? No, è che purtroppo quello che lei dice rappresenta una fetta d'Italia, diciamo, che si vende e si svende. Invece io penso che ci sono delle cose che non si vendono né si svendono. Sì, beh, d'accordo. Parenzo in questo caso svende, diciamo, perché 1.000 euro è proprio una svenda. Beh, Parenzo è proprio una roba vergognosa. Cioè... Ma stavo scherzando, ovviamente. Ma dai, che scherzo? No, mi sto dicendo sul serio. Scusi, secondo lei Berlusconi è un mafioso? Una domanda secca, proprio secchissima. È mafioso secondo lei Berlusconi? Dici a me? Di sicuro ha rapporti con la mafia, o ha avuto rapporti con la mafia, come ci ha detto. Ma è mafioso, sì o no? Beh, non lo so cosa... Essendo che non c'ho soldi, non vorrei finire, diciamo così, a dover pagare, andando in galera, dei cosi enormi di risarcimenti. La cosa sicura è che Berlusconi ha avuto per 20 anni, 18 rapporti anni, con rapporti la con la mafia. E dunque è connivente con la mafia. E ha finanziato la mafia. Ha finanziato. Ha dato un mucchio di soldi. Quindi è sicuramente connivente con la mafia. Come è stato connivente con la mafia. Ma lui riprende l'ultima sentenza che è stata emessa, le motivazioni della sentenza di appello a Dell'Utri, il quale ha detto, vorrei ricordarlo. I giudici dicono concorso esterno, sì, e quindi questa è la cosa corretta, diciamo, stiamo sulla linguaggio giuridico. Ma non abbia paura delle querele di Berlusconi, tanto non querela mai nessuno. Scusi Ferrero, però... chi la paga? I miei figli poi che mi dicono? Ma no, ma figuriamoci, Berlusconi si mette a querelare Ferrero, su, che gliene frega. Qui c'è gente che dice di tutto sulla questione, che cosa farebbe pur di ottenere 370.000 euro... Siete due bastardi, nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltare. Oh, intanto quelli del Movimento 5 Stelle sono sul tetto di Montecitorio perché protestano, sì, perché protestano contro la riforma della Costituzione. Robe incredibili, perché secondo loro la riforma della Costituzione sta avvenendo in un modo che viola la Costituzione, eccetera, eccetera. Vabbè, lasciamo perdere. Senta Ferrero, secondo però lei... Sì. Mi faccia dire una cosa sul 5 Stelle. Hanno completamente ragione. Ma il governo Letta non sta provando a cambiare la Costituzione secondo le regole della Costituzione, ma sta cambiando il modo di cambiare la Costituzione, in modo di farlo molto più rapidamente senza un dibattito pubblico. Meno male. Ma che dibattito pubblico? È 50 anni che si parla di cambiare la Costituzione, ma ci vuole pure il dibattito pubblico. Questa Costituzione va tenuta così com'è, perché è nata in un momento di saggezza, dopo che la gente aveva partecipato e aveva scoperto cos'erano le dittature. Adesso in una fase in cui contrattano di tutto, tra centrodestra e centrosinistra, passa l'Imo come vuole Berlusconi avanti, ci mettiamo a mettere le mani sulla Costituzione, chissà che schifezza ci viene fuori. Ma verrà fuori, non lo so, comunque non mi sembra un argomento. No, questo invece è un argomento importante di cui purtroppo non si riesce. Ma no, se ne parla, voglia, se ne parla, anche troppo. Se la Piome è rientrata in fabbrica, in Fiat, grazie al fatto che c'è ancora una Costituzione, che quindi Marchionne non può proprio fare i suoi porci comodi esattamente come vuole. Senta Ferrero, ma io voglio capire una cosa, se uno sabota un cantiere della TAV, no? Se uno si mette lì a sabotarlo con le cesoie, in un altro modo, è legittimo, è giusto farlo, sì o no? Non voglio risposte diplomatiche, perché non... Io penso che c'è un diritto alla disobbedienza civile di fronte a decisioni sbagliate. D'accordo, dunque di conseguenza... E quindi che si può tagliare la rete con le cesoie. E poi che si può fare di altro? Vabbè, insomma, io sono per tenerla la più bassa possibile dal punto di vista degli scontri. C'è una violenza di bassa intensità, si può fare? Assolutamente, come peraltro per adesso. Ma come assolutamente violenza di bassa intensità? La violenza è sempre violenza, ma che vuol dire? Cioè, è giusto attirare i sassi ai poliziotti, per esempio? No, io non ho mai tirato sassi ai poliziotti e non considero i poliziotti i miei nemici. Considero che quelli che stanno facendo la TAV, sapendo che sprecano una barca di quattrini, che demoliscono una vallata e fanno un'opera inutile, sono totalmente dalla parte del torto. E vanno attaccati per questo? E che quella popolazione popolazione ha diritto a resistere in tutti i modi, per far che cosa? Per continuare a farne discutere. Però perché scusi un attimo, in tutti i modi, in tutti i modi, che significa Ferrero? Cioè, gli atti di violenza sono legittimi in questo caso perché in gioco la vita, in gioco qualcosa, questo, qualsiasi atto di violenza è legittimo? No, non ho mai detto che qualsiasi atto. No, ma ho capito, però se uno pensa che penso che la lotta però... che avvenga anche attraverso atti come il tagliare una rete non è un fatto da terrorismo. Ma dopo tagliare, dopo tagliare la rete, dopo tagliare la rete, che cosa è che è legittimo secondo lei? Che ne so, mi dica un'altra cosa legittima. Prendere d'assalto un cantiere. Prendere d'assalto un cantiere è legittimo o no? Ma quelle sono quelle che loro chiamano la battitura. Cioè? E cioè che si va di notte al cantiere, si prova a tagliare la rete avanti, cioè si fanno tutti quegli atti che cercano di rallentare i lavori affinché si ma se uno viene a casa sua, se uno viene a casa sua e taglia le reti del suo giardino, lei non si incazza, scusi, io vorrei capire. Ma assolutamente. Chiama la polizia, chiama la polizia, sì, infatti lì c'è la polizia. Infatti lì il problema è esattamente che c'è un'opera pubblica che non ha nessuna legittimità. Ma come non ha nessuna legittimità? Ma questo lo dice lei, ma è stata votata da tutti i parlamenti possibili immaginabili di tutti i colori, no, quale legittimità? No, è stata variamente avversata ed è stata fatta passare. Ma tutto è avversato in Italia. Quella linea lì è nata l'idea nel 91 di fare linea ad alta velocità. Ma lasciamo perdere la storia. Torino. Adesso È che lì il problema è l'affare del buco, ci si vuole fare la galleria. E certo, con la galleria come si fa? Che è la cosa che rende soldi. Poi le motivazioni per fare la galleria sono cambiate. Ma fosse anche, anche così, Ferrero, è legittima la violenza, sì o no? Io le rispondo che sono per il livello più basso possibile di violenza e che tagliare una rete è un atto di disobbedienza civile che io non considero da deprecare. E attaccare la polizia quando se la polizia protegge i cantieri, è giusto attaccarla? Ma per adesso non mi sembra che ci sia. Ma come no? Beh, poliziotti feriti, come no? No, siamo ad un livello per il grado, diciamo, di problemi che ci sono in giro, che succedono da tante parti. Ma non è e vero. Che vedono manganellate di qua. E quella è una roba che è lì da anni. Le assicuro, essendo che sono stato uno di quelli sgombrati. Ma lei le sta giustificando, cioè una quasi di un'istigazione alla violenza. La roba di Harry De Luca è un'istigazione alla violenza. Perché lei dice di no? No, Harry De Luca dice che è legittimo resistere. No, è legittimo sabotare. Sabotare. E sabotare. E io penso che Harry De Luca abbia detto una cosa sensata. E che lì c'è una lotta di popolo. Quando io. Ma chi lo decide che c'è una lotta di popolo? Ma non è che lo decide lei che c'è una lotta di popolo? Lo decide la gente della vallata. Ma non è vero. Ma non è vero. Ma non è così. Ma non... Se vuole l'accompagna. Ma fosse anche così. Ci deve sì, però... essere stato e se ne accorge. Però Ferrero, fosse anche così, che quella porzione di persone lì sono contro, non è che decidono loro tutto, ha capito? Perché altrimenti non si fa no, mai un cazzo. No, non decidono loro tutto, però. C'è un caso che l'alta velocità in Italia è stata fatta sprecando un mucchio di denaro pubblico, però... è costata 5 volte di più di Francia. Ma chi se ne frega, ma questo va bene. E ha pagato tutto pantalone, nel senso che doveva essere una roba pubblico-privata. Però lei deve andare... non ci hanno messo niente. Lei deve andare fino in fondo su questa cosa qua. Se lei pensa che tutto questo sia un crimine, allora sono legittime anche le armi. Sono legittime le armi, ma sì o no? Ma non è vero, questa è una sciocchezza. La lotta di 50 anni di lotte, quando c'è stata la legge truffa, i comunisti si sono opposti. Ma che c'entra la legge truffa? Galera, ci sono state scazzolate. Mica quello, mica. Ma allora, no, parliamo ma di lotte popolari. Ma quali lotte popolari? Le lotte popolari come sono no? 50 persone che bloccano un'opera che interessa un intero paese. Quali lotte popolari? Ma non che interessa l'intero popolare. Paese? Parenzo, lo sai benissimo che non interessa. Sì, ma lasciamo paese. Perdere se la questione. Se pagassimo l'aereo a tutti quelli che devono andare a Lione in treno con alta velocità, pagheremmo di meno. Il problema è la violenza. C'è il modo per opporsi pacificamente. Lei dice invece che bisogna sabotare il cantiere, giusto? No, perché non ci va lei a sabotare il cantiere? Ma perché non ci va lei a sabotarlo? Io sto dicendo che bisogna avere forma di lotta le più basse possibili e che questo del taglio delle reti non è una roba che si può trattare come se fosse terrorismo. Ma sabotare il cantiere è giusto? È giusto sabotare il cantiere? Le ripeto che no, sabotare il cantiere, giusto o no? Beh, se tagliare le reti e sabotare no, sabotarlo, cioè fare danni al cantiere, è legittimo? No, in continuazione. No, ma Le ripeto che quel tipo di lotta che serve ad attirare l'attenzione su quel problema e serve a far discutere, perché sembrava che la Francia, cioè la violenza serve a far discutere, benissimo, la violenza serve a far discutere, abbiamo capito. Se lei lo vuole tradurre così, io le ribadisco cosa, ma se io vengo detto a casa sua e taglio le reti del suo cosa, giardino, come no, è la stessa cosa. Io non le faccio pagare le tasse per fare delle opere, ma questa è un'opinione, ma questa è un'opinione sopra, legittima, ma come, è un'opinione però piuttosto pesante, perché poi alla le voglio chiedere un'altra cosa, ma quando i pendolari devono viaggiare nei carri bestiali, ma lei sta parlando di altro. È la normalità di questo. No, non parlo di altro. Ferrero, sto dico che i miliardi invece che sprecarli lì. Va bene, per cose va bene, che ma questo è un altro discorso. Scusi un attimo, Ferrero. No, è un altro discorso, perché questa è un'opinione su quella che è stata la storia della TAV. Io le voglio chiedere una cosa. Ha sentito le frasi di quella contessa che dice che i suicidi non sono per motivi economici, ma sono perché la gente c'ha rotelle fuori posto? No, questo non, questo ma come, ma lei si è perso il meglio, mi capita, lei si è perso il meglio, una nobil donna ha detto una cosa del genere, poi la sentiremo più avanti, ha detto vabbè, che grazie a Dio i nobili sono oramai solo più un fattore di folklore, diciamo così, vabbè, perché hanno fatto abbastanza danni nella storia e adesso grazie a Dio, perlomeno dalle nostre parti, meno male che c'è stato Robespierre, dice lei, no? Eh beh, insomma, eh? E anche lì era un atto di violenza la rivoluzione francese. Beh, insomma, Robespierre tagliava le teste. Cioè, lei si augura che ci sia Robespierre anche in Italia? No, io non voglio tagliare la testa a nessuno. Come no? Parla con un obiettore di coscienza. Quindi io sono una persona attenta. E però giustifica Henry De Luca. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. David? David? Eccolo. Ti voglio presentare un nostro amico, un grandissimo personaggio. Grandissimo però, personaggio. Aspetta. Scusami un secondo. Adesso si sente molto bene comunque, il telefono, molto scusami bene. Scusami un secondo. Dimmi. Quelle persone che mi telefonano, come stanno facendo ora, sì, durante la zanzara, mandale a fare in culo, scusa. Andare a quel paese. Ma io dico anche a fare in culo. Mi continuate a chiamare mentre sono alla radio. Ora basta. Ora basta. Un grandissimo personaggio con noi, fermi tutti. Beh, oh, è sia viceministro che sindaco, e questo devo dire è una sua pecca. È una sua pecca. Ho già capito. Hai capito tutto, eh? Ho già capito, ne sento già il profumo del sud e della mozzarella anche, ne sento il profumo sia della mozzarella che del sud. Il vice sindaco, bravo, bravo, il vice sindaco, sì, vice sindaco, il sindaco no, è vice ministro, scusa, ho detto vice sindaco, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Luciani, ho avuto la grande sfortuna di incappare nella sua trasmissione. Ma come sfortuna? Luciani, lei non si può permettere di condurre una trasmissione radiofonica di interesse nazionale in questa maniera. Ma come? Gente che chiama, gente che la dice, lei è un cretino. E quell'altro là, Parenzo, che le sta vicino, gliene dicono di tutti i colori. Lecchino, venduto, comunista, bolscevico, tirapiti, nano. E che? Ma scusi, De Luca, ma è la zanzara, lei lo sa benissimo. Lo sa benissimo. E fatela condurre a me questa zanzara. Sì, a lei. Il primo, dico il primo ascoltatore che si azzardasse a chiamare per dire lei è un cretino. Che farebbe lei? Ma lei è un morto di fame. E va a morire ammazzato. Vatti a fare due passi. Stia veramente sicuro che cinque dita in faccia non gliela risparmierebbe nessuno. De Luca, però noi l'abbiamo chiamata per una gente. Mi faccia condurre la trasmissione. Ma figuriamoci, dai. Ma dai. La polizia di tutte queste chiangarelle smidollate che non hanno nient'altro da fare che chiamare a lei alla radio. Vabbè, è caduta la linea. Vabbè, se n'è andato pure lui. Sì, ha chiuso la linea. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il G20 spaccato a metà sulla Siria, gelo tra Stati Uniti e Russia, Obama conferma interverremo, Putin si attaccano, aiuteremo Damasco. Il Papa su Twitter, la pace è un bene dell'umanità che supera ogni barriera, crescono le adesioni alla giornata di digiuno e preghiera. Letta a lavorare per superare le divisioni sulla Siria, ma al G20 Italia promossa, giuste le riforme, ma c'è il timore di una crescita senza lavoro. Alfano, dopo la nota del Colle, la fiducia di Napolitano in Berlusconi è ben riposta e Letta non lavora a maggioranze alternative. D'Alema, Cooper lo più adatto per il partito, Renzi per Palazzo Chigi, Berlusconi non farà la crisi, se Letta cade governo per la legge elettorale. Riprese a rischio se salta il governo, d'accordo economisti ed imprenditori riuniti a Cernobbio, l'instabilità blocca l'uscita dalla crisi. Applausi e commozione a Venezia perché è strano chiamarsi Federico, il film omaggio a Federico Fellini di Scola tornato a dirigere dopo 10 anni. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. A proposito dei 5 Stelle che sono asserragliati lì a Montecitorio con una bandiera esposta contro la violazione della Costituzione, e il signor Mandarà ci dice che siamo delle capre, anzi in particolare a me dice che sono una capra perché non ho lasciato parlare Ferrero, comunque perché ho detto che vabbè, ma lasciamo perdere questi discorsi sulla modifica della Costituzione. Signor Mandarà. No, ma è una cosa complicatissima. Loro sostengono che cosa in sostanza? Mandarà. Caro Mandarà, le cose le so, solo che Mandarà. Allora, Mandarà. La cosa è questa, loro sostengono che si sta Mandarà, violando, no? Vogliono, se vogliono modificare, no, dico Mandarà. Ma come dicono in Veneto, manderà via, cioè, ma andarà, cioè, no? No, no, no, resta in Italia, però lasciamo perdere adesso questa questione. Vabbè. Cioè, loro sostengono, questi dei 5 Stelle, che stanno in sostanza per cambiare la Costituzione violando la Costituzione, cioè per cambiarla userebbero, diciamo, uno stratagemma, una scorciatoia per non passare dalle... Io non lo so se è vero e non è vero. Una volta il professor Becchi mi ha fatto una dotta analisi su questo. Posso fregarmene? Posso dire che non mi pare una cosa fondamentale, che non mi pare, tanto comunque non fanno niente, non modificano nulla, non si arriverà a niente, a nulla, non riescono manco a fare la legge elettorale, figuriamoci a cambiare la Costituzione. La Bindi però è coerente perché non si mette sul carro dei vincitori di Renzi. Chi sostiene Renzi era contro la sua candidatura. Chi sta sostenendo adesso Renzi? Ha fatto di tutto per fare regole che non consentissero a Renzi di candidarsi. A chi si riferisce? Io infatti invece ho fatto esattamente il contrario. Oh, alla fine devo dare ragione a Bindi, eh. È così, cioè è coerente fino in fondo. Uno non può dire quello è un criminale, un berlusconiano, fascistoide e tutto, e poi adesso, beh no, l'unica speranza per il PD è Renzi. Oh, ma di che stiamo a parlare, dai? Brava Rosy. Su. Dell'utile alla zanzara, Mangano ancora un eroe. Vai avanti tu, così ti guardo meglio. Mi dica la verità, su sta storia di Mangano su cui sono tornati i giudici, lei è ancora convinto che sia un eroe per il fatto di non aver parlato? Ma non c'è dubbio, ma per me, il mio eroe, io l'ho spiegato e lo dirò sempre, ma chi avrebbe fatto una cosa del genere quando in galera... Sì. Ammalato, gli dicono dici qualcosa di dell'utile di Berlusconi e stasera sei a casa. E questo ha detto, io non ho più niente da dire. E dorme in un tombino. C'è l'aria della... Mangano, bisognerebbe mettere. Quasi quasi mi metto una fotografia a casa. E da fargli un monumento. Ma per me il monumento che intende lei, no. Monumento, no, intendo io. Monumento a casa sua, cioè una statua. Ma io la fotografia a casa ce la metterei, ma per forza. Ma come forza. La fotografia a casa? Lei c'ha la fotografia. Si no, mette... non ce l'ho. Però la metterebbe sul comodino, diciamo, no? No, neanche sul comodino. Però io metterei, non c'è bisogno di metterla da nessuna parte. C'è un mondo che ha già tutto e di te non ha bisogno. Suicidio giammai, chi si suicida non è normale. Dell'Utri sulla scorta della contessa. Ma lei ha mai pensato al suicidio qualche volta? Ma neanche per soldi, lei che sta scherzando. E che ne so io? Vabbè, il suicidio è una cosa da diciamo così, da gente poco coraggiosa. Cioè, chi si suicida. Ci vuole coraggio a non suicidare. Chi si suicida, anche se è disperato per motivi di lavoro, ha qualche rotella che non funziona. Io lo penso. Ma non c'è dubbio, chi si suicida non è una persona normale, non è neanche coraggioso. E siamo qui, Stefano da Milano, eccoci. Sì, buonasera, sono io? Sì, fino a prova contraria è lei, poi se lei ha truccato la sua voce. No, sono io. Senta, sì. Buonasera, Cristiano, io volevo tentare di. Tentare. Spiegare perché secondo me la violenza dei Notav è, diciamo, tecnicamente legittima. Sì, tecnicamente legittima, certo. Sì. Vada, però ci provi se allora, ci riesci. Intanto sgombriamo il campo. Io penso che i Notav siano tali non per questioni, come ha detto Ferrero prima, macrologiche, macroeconomiche, che tentano di salvare i conti dello Stato, sono semplicemente in lotta perché fanno un calcolo localistico. Non sì, gli ma piace quale localistico? Vengono tutti da fuori, questi sono dei criminali che vengono da fuori. Ma ne hanno arrestati due, ne hanno arrestati due adesso a Milano. A Milano ne hanno arrestati. Stia tranquillo, ne hanno arrestati due a Milano adesso che hanno sfasciato per motivi futili, per motivi ridicoli, la testa a un ragazzo all'Università Statale di Milano. Due che andavano sempre a fare casino lì in Val di Susa, vengono quasi tutti da fuori e quelli che fanno le manifestazioni lì. Ovviamente c'è anche gente del posto, per dire anch'io, sono che ci dei sono criminali. Sia i valligiani, sia i professionisti delle mazzate, come le ha definite qualcuno, ci sono sia l'uno che l'altro, vabbè, allora sono tutti da fuori. Allora, questi valligiani che fanno soltanto calcoli localistici e non ci tengono assolutamente ai conti dello Stato, sono persone che non riconoscono più l'autorità dello Stato. E vabbè, tanto sa quanta gente che c'è che non riconosce l'autorità dello Stato, è pieno, ho capito, è pieno ma il quando mondo. Queste persone pensano che il traforo del vabbè, non vada fatto, che cosa è legittimo fare? Opporsi anche con la violenza? No. Beh, ma nel momento in cui non riconoscono l'autorità, ma va, allora Stato, va bene tutto. Ma Stefano, anch'io, allora a un certo punto io dico non riconosco l'autorità dello Stato. Ma ho capito, ma Stefano, ma che vuol dire? Ma se io mi metto a dire, che vuol dire? Non riconosco cosa vuol dire. Ma è un argomento folle, perché allora va bene tutto. Io non riconosco l'autorità dello Stato. Che vuol, non riconosco l'autorità dello Stato, dunque sono legittimato a usare la violenza. Ma dico, stiamo dicendo sul serio oppure no? Non è folle, ma scusi, ma guardi che queste cose qua si insegnano in tutte le università d'Italia, va bene, va bene. Guarda, ma quale università? Ma chi le insegna? Qualche criminale? Ma di che cosa parla? Ma scusi, cosa vuole che le dica? Io non le sto giustificando nessuno, sto tentando di trasmettere un pensiero che è quello che penso io. E che infatti lei ha detto una cosa che secondo me è una stupidaggine. Grazie. Gregorio da Bologna, buonasera. Pensiera, volevo ringraziare Lutri per le parole che ha detto ieri sera riguardo al libro di Saviano. Nel senso che ha detto, nella vita non ho a malapena ho finito di leggere La Gerusalemme liberata, figurati se io mi metto a leggere quello che ha scritto Saviano, anche perché immagino che l'onorevole De Lutri le sappia dal vivo quelle cose, quindi le saprà ancor meglio di Saviano. Vabbè, ma quindi questo non va benissimo, per carità, che lei lo dica, ma poi ognuno legge i libri che vuole, mica è necessario e obbligatorio leggere Saviano, Appunto, allora, poi più che altro volevo intervenire sulla questione dei suicidi da un punto di vista medico. Io premetto che non sono un medico, però mi è stato detto da un mio amico psichiatra, e però non è certo al 100%, che per quanto concerne il suicidio, mi ha detto questa cosa, mi ha detto che viene danneggiata, mi ha detto che vengono danneggiate delle cellule del cervello atte alla protezione della vita, che poi dietro questo ci sia una forte depressione, è molto probabile, però si devono danneggiare affinché uno si suicidi quelle cellule atte alla protezione della vita, quindi non è necessario che uno diventi povero o gli succeda una disgrazia, devono proprio danneggiarsi. Vabbè, uno ancora a casa, Simo. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende isterico. Oh, la santa che non si può stare a fianco dei carnefici di Berlusconi. Che ci resto a fare insieme a te, è meglio lavorare. Io credo che non si possa stare seduta al fianco dei carnefici di Silvio Berlusconi. Matto, se tu sei gelosa più di me, scappo sotto al letto. La megalomania di Pannella, fanno cadere il governo per rimandare il referendum. Marco, ma che stai a dire? Quelli che seguono Berlusconi, che vogliono che tutti e 12 questi referendum vengano sottoposti al paese, allora vedrete che questi, come hanno già fatto 5 volte, faranno cadere la legislatura per impedire il referendum. L'hanno fatta 5 volte nei 30-40 anni. E dovremo quindi ancora, dico Silvio, ma figuriamoci che gliene frega dei referendum, ormai non contano più nulla i referendum, niente. sono polvere, non contano più niente. Beh, contano niente, contano. Non contano niente, basta. È un istituto morto. Adesso stiamo solo raccogliendo le firme, poi ci sarà il vaglio della Corte e poi gli italiani potranno decidere. Ma quale decidere? Al massimo possono abrogare. E dare la possibilità di decidere se abrogare, ma sono una farsa, ormai. Comunque non mi interessa questo, mi interessa di più dire ai tuoi amici del 5 Stelle che hai votato, sì, che il signor Gian Roberto Casaleggio, che sarà domenica a Cernobbio, sì, ospite del Workshop Ambrosetti, farà quel convegno con il culo di Obama a porte chiuse. Chi a se ne frega? Porte chiuse. No, perché loro erano quelli che dicevano che a Cernobbio si decidono i destini del mondo ed è tutto a porte chiuse. Il loro guru va lì a fare il bello a porte chiuse nel posto del diavolo? E che cosa dicono i grillini della rete del loro guru? E invece lo sai che mi ha rotto veramente le palle a me questo ministro Chieng, te lo devo dire molto sinceramente. Sì, devo dirti la verità. Ma non è che mi sia antipatica, anzi, spesso ha dimostrato una tempra. Brutto che vuol dire? Perché se dici una cosa perché è nera, uno deve dire che va bene, non ho capito. Ma stiamo scherzando. Una cosa brutta che dici. D'ora in poi chiedo di essere chiamata Cascetu Chieng, detta Cecil. Cioè, questa qua si sveglia dopo 4 mesi dall'inizio del governo, dopo quello che è, e dice che da oggi sono Cascetu Chieng, detta Cecil. È la richiesta di anteporre il suo vero nome di origine congolese al nome francese acquisito dopo il suo trasferimento. Cioè, noi ci facciamo due palle così da 4 mesi con Cecil Chieng, cioè due palle così, cioè diciamo Cecil Chieng, e adesso invece lei vuole essere chiamata Cascetu Chieng, detta Cecil. Lavorare, non voglio discutere con te. Vittorio, provincia di Bari. Beh, c'è nulla di male, sarebbe come se Francesco detto. Ma perché non l'ha detto Palma prima? Non ho capito, perché non l'ha detto prima? 4 mesi dopo l'inizio del governo, non ho capito. Marco Giacinto detto Marco Pannella, infatti. Dai, lo sai anche tu. Ma tu hai un secondo nome o no? Tu hai un nome di battesimo? Che nome hai? Fammi sentire tu Vittorio. Sei Giuseppe, sì, no? Fammi sentire Vittorio, dai. Vittorio. Buonasera. Volevo richiamarmi a quanto diceva ieri sera lei a proposito di quell'articolo di Umberto Veronesi sul futuro dell'umanità che è bisessuale. Ma lo dice Veronesi questo, amico, lo dico io. Sì, c'è un gruppo di noi che ne è convinto, stiamo creando un movimento d'opinione chiamato civiltà bisessuale, anzi, cioè, con suo permesso. Cioè lei, scusi un attimo Vittorio, lei sta, no, perché qui tocca chiamare qualche medico buono, cioè lei sta, sì, dicendo che sta creando un movimento che si chiama movimento d'opinione chiamato civiltà bisessuale. Civiltà bisessuale. Parenzo, che ne pensi di questo movimento d'opinione che si chiama civiltà bisessuale? Cosa ne pensi? Quanti per ora questa idea embrionale, questa idea geniale direi che le è venuta, quanti aderenti ha per ora questa gabbia di matti, questa associazione, quanti ne ha? È un gruppetto ristretto, sì. Ci sono professori di filosofia greca, per esempio, in effetti ci si rifà al mondo, sì, latino e greco, che poi sì, sono le vere nostre origini, sì, insomma. Sì. I nostri avi erano. Scusi, a che serve questo? Sì, i nostri avi, le cose, i greci, i romani, quello che vogliamo. Ci però può fornire i nomi che li diamo alla questura o a un no, perché alla questura no, ma al massimo al coso, all'ospedale. Sì, no, alla questura no, ma all'ospedale subito però. Scusi Vittorio, però voglio dire una cosa. A cosa serve un movimento d'opinione che si chiama civiltà bisessuale? Abbia pazienza. Penso che siamo nell'assoluto naturale, anche gli etologi affermano che i mammiferi, sì, famiglia a cui noi apparteniamo, sì, non hanno mai un comportamento rigidamente eterosessuale e rigidamente omosessuale. Cioè il futuro del mondo ha un comportamento bisessuale. Ma lei è bisessuale, caro Vittorio? Sì. Lei è bisessuale, cioè si spieghi tecnicamente, cioè lei è sposato, non sposato, cos'è? No, non sono sposato. Non è sposato, però va con gli uomini a voile e a vapeur, come si dice in francese, no? Cioè, a vela e a vapore, giusto? Come usava nella civiltà greca e latina. Cioè, lei va con gli uomini, ma è passivo o attivo, tanto per capirci? Non ci sono. Ma no, ma per capire, in senso tecnico. Non ci devono essere ruoli predeterminati. Vabbè, comunque lei va con gli uomini e con le donne, giusto? Ma sì, con in egual misura oppure preferisce gli uni agli altri? Ma Dipende dalle circostanze. Dunque, lei dichiara di essere perfettamente bisessuale, giusto? Questo non c'è nulla di male. Perfettamente, no, per no, carità. Ma oscillando, certamente. Oscillando, però io dico una cosa, caro Vittorio. Tu va tutto bene, noi siamo apertissimi, no, Parenzo, a tutte queste cose qua. Siamo assolutamente. No, noi ci fa anche solo piacere. Però ecco, un movimento d'opinione che si chiama civiltà bisessuale, francamente non se ne sente il bisogno, ecco. Quello un po' è strano, oggettivamente strano. Civiltà bisessuale, oggettivamente è strano, però... Stefano da Pisa, grazie Vittorio. Stefano, intanto continua l'occupazione del tetto di Montecitorio da parte del Movimento 5 Stelle, che però non mi sembra che riscuota, come dire, una, come dire, masse popolari che perché in realtà questa minaccia che c'è nei confronti della Costituzione non se ne accorge nessuno. Cioè la gente non è che per strada dice: cosa stanno minacciando la Costituzione, stanno violando la Costituzione. Cioè, attenzione, non è che c'è questa massa popolare. Stefano. Ma cosa stanno lì tutta la notte sopra al tetto di Montecitorio violando la Costituzione? Vabbè, loro stanno sul tetto di Montecitorio mentre Casaleggio va a Cernobbio. Sì, il loro guru va a Cernobbio dove c'è il Bilderberg. Ci sono personaggi che appartengono anche al Bilderberg. Esatto, Stefano esatto. Da Pisa, quindi, buonasera. Buonasera Tuciani, buonasera. Dica. Parenzo. Pronto? Sì. Ah, buonasera. Volevo intervenire riguardo a quanto è stato detto sulla TAV sia da Ferrero stasera che da De Luca l'altra sera. Dunque, innanzitutto sono in perfetto accordo con quanto hanno detto loro, cioè che sabotare un cantiere non è un atto di violenza, ma un atto necessario quando ci troviamo davanti a delle decisioni che vanno a influire sulla vita delle persone che abitano in quel territorio. Per quanto riguarda invece cosa diceva lei, cosa cercava di fargli dire, soprattutto a Ferrero stasera, cioè paragonare le lotte dei no-tab a una lotta armata, una fantomatica lotta armata, mi sembra assurdo. Anche ma io non ho detto questo, ho detto che bisogna essere coerenti. Se uno dice che è giusto sabotare i cantieri, che è giusto sabotare i cantieri, è una cosa, dottor Cruciani. Ma no, no, è la stessa cosa. Cosa. Ma no, ma lasci perdere la lotta armata, nessuno vuole dire il terrorismo. Ma, lei questo ma io non ho detto, non ho mai pronunciato la parola terrorismo. Armi, allora è giustificato anche per certo, armi. Perché se uno sa, se uno pensa che lì si stiano commettendo dei crimini gravissimi contro l'umanità, contro la vita. Si taglia con le scissorie in rete, non è necessariamente bisogna sparare a qualcuno. Cioè, se spara a qualcuno, io in determinati momenti della storia è stata giustificata anche la lotta armata. I partigiani appunto hanno fatto dico, una lotta armata. Vede che ci arriva, lo vede che ci arriva anche lei poi alla fine? Se uno giustifica quello, poi si arriva pure alla. È giustificata anche da una persona come Cossiga, che è lontano da me. Ma che c'entra? Mi duce come idee. Quello che stanno facendo i no-tab sì. È una lotta che a volte deve anche per questioni di visibilità, per questioni anche proprio bisogna boicottare il cantiere, va bene, d'accordo, ma va benissimo, per carità, bisogna sabotare boicottando il cantiere. Ma sono gli stessi che tirano i sassi ai poliziotti, lei lo capisce o no? Fare. Ho capito, ma lei lo capisce che sono gli stessi che tirano i sassi ai poliziotti, uguali, identici, gli stessi sono. Lei non può generalizzare così, come no, perché invece io e lei conosciamo le persone che sono laggiù. Sono gli stessi, sono gli stessi. E ci sarà quello che taglia. Sì, infatti, sì, si dividono i compiti, certo. Sono quelli più violenti e quelli meno violenti. E ci sono diversi movimenti anche all'interno. Tutti la pensano alla stessa maniera. Tutti, naturalmente, non vogliono la TAV. Ci sarà anche chi pensa che bisognerà tirare sassi. Questo non è giustificabile, naturalmente. Però sabotare il cantiere, quello che diceva De Luca, non è soltanto responsabile, è anche legittimo. È legittimo. Benissimo, grazie. Oh, abbiamo un ospite, caro Parenzo, una persona che ti sta e ti starà sicuramente molto molto simpatica. Meno male, meno male. Si tratta di una persona che è stata massacrata in queste ore da Twitter, da Moira Orfei. No, ma che c'entra Moira Orfei? No. Che c'entra? Beh, è stata massacrata per la questione dell'uso degli elefanti, per queste cose. Vabbè, ma quello da una vita che è così. È molto simpatica Moira. No, è la signora Marisela Federici, buonasera. Buonasera, mi state sentendo? Sì, la sentiamo benissimo. Oh, ma che battaglie che dovete voi... Ma noi siamo ogni giorno abituati... è la contessa. No, non è... lei è contessa, signora Federici? Io sono una signora che siccome ce ne stanno poche è già difficile. Vorrei sapere adesso che cosa aggiungeranno quelli che mi mandano quelle bellissime messaggino via Twitter, non so cosa. Ma l'hanno minacciata di morte pure, signora Marisa? Trovo che un po' pesante. imbarazzante, soprattutto perché non mi conoscono. Sì. E allora bisogna avere un po' di prudenza. Io chiedo scusa di aver ferito la sensibilità di tanta gente. Sì. E tra l'altro non era la mia intenzione, ma è bello dirlo. Sì. Io ho parlato di cose che sono state forse fraintese, no? Beh, adesso vedremo. Forse adesso... la cornice della casa, il vaselame, le porcellane hanno accecato un po' il vero contenuto delle mie parole. Vabbè, adesso vedremo, adesso sentiremo. Beh, adesso Federici, però io voglio capire una cosa. Lei è ha qualche titolo nobile? Siccome lei è chiamata la nobildonna, ha qualche titolo? Sì, perché nobildonna si è quando una persona della famiglia ha un titolo, e chi ce l'ha? Che non lo puoi portare. Chi ce l'ha sto titolo? No, è un po' lungo a spiegarglielo, guarda. No. Perché era mio marito. Ma chi ce l'ha? È andato a fare una passeggiata. Ma è suo marito che ce l'ha il titolo nobiliare? Certo, io sono sudamericana. Sì, di origine venezuelana. Bene, certo. Anche mio padre era di origine spagnola e ce l'aveva anche lui. Ma io vivo in una repubblica e è meglio non toccare questo perché so come finisce. No. Io sono signora e sono molto orgogliosa di essere. Certo, no, ma voglio capire, suo marito che cos'è? Conte, barone? È mio marito, un grande signore. No, d'accordo, quello sì, ma va dal bene così, punto fine. No, ma dal punto di vista nobiliare, per capire, ha capito? È un signore, è già tanto, in Spagna il signore è un titolo. No, ma ho capito, vabbè, non si agita, non vogliamo... È un gran signore, il sotto, a differenza tua, questo lo posso aggiungere io. A differenza questo mia, stai dicendo, che vuol dire? Questo lo aggiungo io. Giù così? No, mi tratta sempre... Perché lui, signora cara, signora mia... Federici, ecco, va trattato non gli piace così, però chiamarmi signora, vedo che fa un po' di difficoltà. No, si no, mi sto abituando, no, ma io infatti era una domanda semplicemente, volevo capire qual era per curiosità, era bene, il quadro, il quadro è un pezzo su. No, il quadro è qualcosa, cioè, piacevole, ma è... per far contento molti, per fare più golla, per dare più invidia, non so come spiegare. No, ma noi non siamo, guardi io che io sto scherzando, perché adoro l'ironia. No, ma guardi che le io queste serie si parlano in un altro modo. Scusi un attimo, signora Marisella, le dico subito una cosa. Io ieri, al contrario di quello che ha fatto il mio socio qui Parenzo, l'ho difesa a spada tratta sulla ma questione. Ma io la ringrazio, peccato che non ho sentito la trasmissione. Vabbè, ma non fa niente, no. Non è obbligatorio, però Io proprio per niente invece, comunque. Lui per niente, io invece l'ho difesa, perché in fin dei conti che è successo, al di là della polemica con la Rai, che adesso ne parleremo. E perché lei dice ma parliamone, che... adesso certo. Ne parleremo e non ne parliamo mai. No, ma adesso ne parliamo un attimo. Però al di là della polemica eccetera, lei ha detto una cosa secondo me sacrosanta. No, cioè ma che... ha detto tutte cose molto sagge. Vabbè, le sagge adesso... Allora cominciamo dalla prima, lei no. Avrà la lista di quello che ho no, detto. No, la prima cosa che voglio sapere è questa. Allora, perché lei se la prende allora con la trasmissione presa diretta? Perché le avevano detto... Bisogna essere chiari. Se a me mi chiedevano prima sì. Se mi prestavo a essere paragonata, soprattutto un discorso così delicato come parlare dei ricchi e poveri, e già il nome della trasmissione è terribile, io avrei detto di no, per una questione di buon senso e di educazione. Vabbè, ma signora, lo trovo tragico, una persona che si presta per paragonarsi a uno che non ha... certe qualcosa che Dio ha dato, no, lo trovo orrendo. Però scusi, loro non me l'hanno detto, qui mi hanno parlato di una trasmissione di buon tono. Però scusi un attimo, signora Federici, se le hanno detto che la trasmissione è una trasmissione sul buon tono, ovviamente è sbagliato, però lei in fin dei conti certamente ha potuto... non mi hanno detto che si chiamava ricchi e poveri. Vabbè, ma io sarei stata l'immagine di una ricca e poi ci sarebbero stati i poveri, ma questo è orrendo, è penoso, è classista, è orribile. Ma lei vuole una società come quella in cui viviamo. Lei vuole quelle ci sono, guardi. Allora io potevo accettare una cosa di contrasti detto in un altro modo. Prima di tutto non avrei detto sì, sono disponibile. Io sono, guarda, non ho neanche chiesto perché sono stata sempre molto devota alla RAI, sì. E nella mia casa sono entrate La Vita in Diretta, sì. E altri programmi di intrattenimento leggero, dove sì. Queste cose che ho detto, le stesse, dette in un altro contenitore, non avevano il peso e la valanga mediatica spaventosa che ha suscitato. Però scusi un attimo, scusi un attimo, il problema è che loro non sono stati chiari, non hanno detto signora questa è una trasmissione che si chiamerà ricchi e poveri, perché avrei detto no. Ma non i titoli, però, scusi un attimo, signora Federici, no, io la seguo benissimo, però c'è un punto fondamentale. Non è che quando uno va a fare un'intervista a una persona dice: guardi, chiameremo il programma Ricchi e Poveri e il programma sarà fatto così, così, colà e colà. Ma lei andrebbe in un programma dove non sa, va bene, io ho accettato questo perché so che parlavate di questa storia che la trovo. Ma infatti stiamo parlando di questo, le sto dicendo, lei vuole querelare la RAI, vuole portare. Io non voglio fare niente, voglio che la gente dimentichi questo incidente e voglio che le persone che hanno sentito quelle parole dette in quel momento, in quel contenitore che era sbagliatissimo, Ricchi e Povero, io chiedo scusa perché non era la mia intenzione ferire la sensibilità. Che ne pensa del conduttore? Che ne pensa del conduttore Iacona? Non lo so neanche chi è, guarda, non l'ho visto perché ero talmente arrabbiata che ho chiuso l'ho visto in differita, no, tra l'altro non mi hanno neanche avvertito che sarebbe andato in onda quel giorno. Scusi un attimo, ma lei conferma? È gravissimo, no? Ma questo sì, va bene. Tra di loro, ma no, ma non è normale. No, ma è normale, guardi, io non lo so perché non mi sono mai trovato in questa situazione, però è evidente che quando uno va a fare un'intervista, immagino che lei abbia potuto dire quello che voleva. Ma cioè, io l'ho detto, ma non l'ha visto, tra l'altro montato così, ma questa signora è stata qui tutto un pomeriggio. Ma il montaggio? Le parole si sono viste quattro che sono state tutte proprio penalizzate. Ma è sempre così. Ma cosa ho detto di così sbagliato? No, ma infatti io sono cattolica e non condivido il suicidio, ma se mettete il suicidio in un altro contesto, questo è un'altra cosa. Però lei ha detto che i suicidi per motivi economici non ci sono, perché no, un momento, io ho detto che non è giustificato in nessun caso. D'accordo, il suicidio, però lei ha detto la negazione alla vita. Va bene. La negazione a se stesso, la negazione alla vita, un suicidio. Io non posso lasciare, è un atto di un egoismo estremo, ma ha le sue motivazioni. Guarda, io. Però lei ha detto che. Io li potrei parlare per una intera giornata. Però scusi, signora Federici. Preferirei non farlo, ma per quello mi oppongo alla parola suicidio come rimedio a un male, come il non avere un lavoro. Signora Federici. Perché un lavoro si può rimediare, la vita ecco. No. Benissimo, lei dice non esiste un suicidio per motivi di lavoro, perché c'è qualcuno che alla fine. No, hanno capito male. Ho detto, non è giustificato. Sì. Io personalmente non giustifico. Guardi che la mia opinione. Gliela faccio risentire se vuole. Lei ha detto quando uno si suicida c'è sempre qualche rotella fuori posto. Questo. Ma certo, è un squilibrio totale. Lei non è in se stesso. Dunque non è che uno si ammazza. Non è che uno si ammazza perché perde il lavoro. Uno ma si ammazza. No, guardi, può piangere perché perde il lavoro. Ma la speranza è l'ultima a morire, ma E quelli che si ammazzano e dicono che si sono ammazzati, lasciano le lettere, ho perso il lavoro, secondo lei non è vero? Beh, avevano veramente, guarda, io non voglio entrare in questo, avevano le loro motivazioni, diciamo così. Loro avranno avuto i loro sacrosanti motivi per prendere questa decisione. Però e io rispetto, non posso parlare di persone che non conosco. Beh, lei però posso ha detto che hanno rotelle fuori ma ha detto penso. Ha detto che hanno rotelle fuori posto, questo l'ha detto no, lei. No, non quelle persone che non conosco. Io parlo di una persona che prende una decisione come il suicidio. Sì. L'idea, capito? L'idea del suicidio. Vabbè, Parenzo, che dici? Parenzo, scusi un attimo. Voglio dire, sì, madame. Poscala madame non come è signora. Siamo in Italia, dica signora per cortesia. Signora, madame, Fräulein, bellissimo. No, volevo dire questo, ma perché dice così? È chiaro che se uno perde il lavoro è talmente disperato che ha perso anche quella speranza, magari. Non ma possiamo non fare vero, queste analisi. Ma perché deve perdere la speranza perché ha perso il lavoro? Brava, brava. Signora mia, ma la testa, il cervello, no. Brava, brava. Ma signora mia, lei ha mai lavorato? Questo. Oh, mamma. Brava. Lei ha mai lavorato? Guarda che sono delle prove e uno ha il coraggio di andare avanti, poi ma è molto personale, io non ho voglia di giudicare nessuno, non madame, è stata la mia intenzione. D'accordo, questo l'abbiamo capito. Parenzo le ha chiesto una cosa, madame, ma lei ha mai lavorato, questo. Signora, ha mai lavorato? Tantissimo, ma che ha fatto? Che la prima persona che dà l'esempio in questa casa che voi avete visto in questo filmino, sì, sono io. Io devo, per farmi rispettare delle sì persone che lavorano qui, delle quali sono grata e senza di loro non quante potrei neanche prendere sarebbe la servitù fare una sì festa, io devo dare l'esempio. Ma quanto farmi lavora? Che fa lei di lavoro? Come che faccio? In casa? No, in casa, sì, di lavoro. Ha mai lavorato nella vita sua fuori dalla ma casa? Ma io ho lavorato. lavorato, guarda, sono laureata in scienze politiche, sì, ho lavorato quando ero giovane. Quando era giovane, lavorato, sì, seriamente, si vuole le dico dove, ma non voglio fare pubblicità. No, per carità, però... No, voglio dire, ma lavorato adesso... con una grandissima disciplina, perché non si direbbe, ma ho una grande disciplina in tutto, si vede nella mia casa, si vede nel mio modo di vivere. Quante persone lavorano da lei? Lavoro solo io, guarda, io valgo per tutti. No, ma a casa sua quante persone lavorano? Le teste sono cose molto personali. Ma quante... io do l'esempio a loro. Ma quante persone lavorano? Sono molto grata. Quanto persone lavorano? Non è una cosa personale, signora. No, lavoro io, sono io la mente di tutto quanto. Io mi alzo di notte, faccio le preghiere facendo dei lavori, quando loro si svegliano trovano già tutto scritto, tutto pronto, tutto già da seguire. Perché non si mette a fare politica con questo piglio che ha? No, ma io vorrei fare politica. Sì? Almeno tutta questa energia condurla su una cosa positiva. Oh. Vediamo se mi criticano lì. E con chi la farebbe politica? Nel centrodestra, con la sinistra? Con chi la farebbe? Ma secondo lei con chi? Che ne so, me lo dica. Con le persone che hanno rispetto della Sì, ho capito, ma con chi? Più con Berlusconi o con la, per esempio... con la sinistra? Né con chi me lo proponga seriamente. Più o meno. Lei con chi me lo propone seriamente. Con Renzi. Le idee che mi stanno proponendo vanno d'accordo con me, li seguo. Allora, un attimo perché solo. La politica non è né destra né sinistra. Un attimo solo che ho la pubblicità, torno subito, si chiama Marisela Federici, un mito, una leggenda però, questa è, ce lo mette, vabbè, lasciamo perdere. Lei è diventato insopportabile. Lo so, che devo fare? Sono fatto così. Ormai è andato. Ma è con noi la signora Marisela Federici, grandissima, grandissima. Lo sai come si chiama la villa, Parenzo? La Furibonda. La Furibonda, la villa. La Furibonda. Ma cosa quello sì che è un nome, una garanzia. E ho scoperto anche Senta, signora, madame, perché non ci invita? Io questo volevo chiederle in diretta radiofonica. Ma quando vuole, io sono felice. Perché non invita me il signor Cruciani, che in quell'occasione lì si vestirà adeguatamente nella sua villa e ci fa servire? Anche, guarda, come vuole, come si senta meglio. Dai camerieri, io voglio camerieri solo in livrea, solo in livrea. Ma perché non è in ha sbagliato casa. E come sono, come sono i camerieri? Scusi, la Federica. Non vengo, qui allora. Siamo sudamericani, qui girano con una penna, con delle piume in testa, si mettono un grembiulino de paglia, una gonnellina di bambù. Quanti sono le persone? Ma quanti sono? Ma che cosa vuol dire quanti sono? Ma che ne quelle so, che sono necessarie. Le persone di servizio per mantenere Villa Furibonda. Quelle necessarie. Che ne tanto, so. Noi siamo in due, mio marito ed io. Sì. Per cui non esageriamo. Poi c'è la crisi, che vuole? La crisi, certo. Otto. C'è la crisi, otto la crisi, però guarda, già questa parola crisi mi dà un po' noia. Perché? Perché la crisi non può durare tutta una vita. Ma no, la parola poi... crisi vuol dire un attimo. Un momento di transizione. Bravo. Un malato ha una crisi, vuol dire che il malato o muore o supera la malattia per la quale è ricoverato. Però scusi signora, io ma non si può tenere la crisi per sempre, perché poi diventiamo deboli. Non c'è dubbio. Poi scusi un attimo, bisogna essere sempre ottimisti. Lei giustamente ha detto una cosa: basta con queste lamente, la gente che si lamenta, pure a me mi dà un fastidio enorme. Lei ma come certo li giudica quelli che si lamentano? Quelli che si lamentano, ho perso il lavoro, come li giudica lei? E li giudico scansafatiche. Hanno bisogno di coraggio proprio. Hanno, sono bisogna anche scansafatiche. Su. Voi, bisogna che sentano più trasmissione come la vostra, come quella del signor, come si chiama quello là che mi ha preso in giro, Iacona. Iacona, sì, Iacona. Devono sentire trasmissione del genere per incoraggiarsi, capito? Per riempirsi. Però di... sono un po' scansafatiche questi qua che si lamentano. Ma contro... non lo so, ma certo, lei l'ha vedono detto, quel tipo di trasmissione e rimangono un po' turbati. Ma lei l'ha detto che sono un po' scansafatiche. Perché non sono idee chiare. Quello non è una trasmissione che dà un'idea chiara di che cosa veramente sta succedendo in Italia. Vabbè, quello lasciamo perdere. Perché tra l'altro semina una specie di vendetta sociale, di odio a quello che ha un fiore in più, a lei, odio a quello che ha una camera con qualche cosa. Guarda che nella vita nessuno si porta nulla all'altro mondo, però certe cose tirano sul morale. Per esempio una festa tira sul morale. Guarda, io dei psicoanalisti ne ho conosciuto tanti e le assicuro, per me, nel mio caso, meglio la festa che continuare. Tra l'altro costa meno la festa che lo psichiatra. Oh, viva le feste, abbasso. Ma un sacco di gente viene a casa sua, ho visto. Anche Berlusconi è venuto qualche volta? Guarda, l'ospite, gli amici, come il sesso, né se contano né se raccontano. Ah, per cui non parlo. Non parla dei suoi amici. Però no, né di amicizie né di... Alemanno è venuto perché lei ha detto di aver votato Alemanno. Se lo vedete in fotografia è inutile domandarlo, ma io non parlo delle persone che vengono per rispetto all'ospite. Scusi un attimo, però lei se dice vuole entrare in politica lo farà sicuramente con la destra, ha votato Alemanno, amica... Le ho detto con quelli che mi propongono delle cose serie che vanno d'accordo con il mio pensiero. Comunque, guardi, secondo me va fatta una festa in onore degli omosessuali, signora Federica. Ma li adoro l'omosessuale, finalmente gli avete dato voce e voto. Finalmente. Ah, ma che noia questo finto rispetto umano, questa falsità. In che senso, scusi? Anche il Papa ha detto, sono persone che si vogliono avvicinarsi alla Chiesa, hanno tutto il diritto, ma che vuol dire? Brava. Tutto questo che hanno ricamato, terzo sesso, ma che vuol dire? Ognuno ha il diritto di amare quello che vuole, con cui si sente meglio e più felice. Concediamo e un bel... con grande rispetto devono andare avanti, capito? Comunque anche Bertinotti, no, Parenzo, questo, Parenzo. Compagno, ma no, che cosa? Anche Bertinotti, anche gente di sinistra è venuta a casa, siccome l'hanno criticata. Guarda, io non le ho già detto prima, Bertinotti, la gente c'è la foto. Che entra in questa casa non è di destra né di sinistra, sono ospiti. Comunque ho scoperto, Parenzo, che la signora Federici ha un cameriere birmano, un cuoco birmano, scusa, un amore, un cuoco birmano, un amore, quello è un amore. Una cosa raffinatissima, il cuoco birmano. Ma perché è raffinatissimo? Beh, è raffinato, è il cuoco birmano. Ma come se lei mi dice che uno filippino o un venezuelano, un thailandese, sono tutte persone che hanno un'arte. Beh, loro certo, hanno un'arte, perché certo, cucinano in un modo ecologico, sano, molto economico, tra l'altro. Beh, economico, questo poi bisogna vedere. Comunque molto economico, beh, ma tutto vegetale. Adesso, qui la carne non si sente neanche l'odore. Adesso economico. Cioè, è vero. Una sua festa costerà... Ma perché io non dovrei essere una donna saggia che sa d'economia? Mi dica il perché. No, ma per carità, però non è che le feste a casa sua sono economiche, adesso signora Federici, su, ma chi ha detto che sono dispendiose? Ma allora, un minimo dispendiose saranno, non è che mantenere quella casa, ma ci vorranno dei danari, ma non... chi l'ha detto, ci vuole, guarda, la prima cosa che ci vuole, ma buon scusi, senso, madame, scusi, signora, è una signora, signora educata bene, ha buon senso. No, ma questo siamo sicuri che lei è una bravissima amministratrice di famiglia, però io dico una cosa, per mantenere Villa Furibonda, beh, insomma, ci vorrà una 20.000 al mese, ci o no? Ci vuole saggezza, mio caro, perché i soldi non fanno la felicità. D'accordo, ma questi conti vengono fatti in un altro modo. Scusi, io faccio conti con guarda, lasciamo perdere. No, d'accordo, posso essere giudicata malissimo. No, quanto, io voglio capire, quanto... Perché quanto? Non si parla dei soldi. Ma come non si parla di soldi? Né dei odori, né dei camerieri. No, mi faccia altre domande più divertenti. No, ma... Lei mi ha parlato di cameriere, di soldi e di... fra un po' di odori. No, di sesso... Non si parla di nessuna di queste tre cose. Di sesso mi piacerebbe moltissimo, devo dire. A casa mi hanno insegnato così. Di sesso mi piacerebbe moltissimo, devo dire. Che cosa? No, di parlare di sesso con lei mi piacerebbe ma moltissimo. Ma parli di sesso, è più normale. Oh, lei quanti anni ha, signora, scusi? Io ho 64 anni. 64. E non mi sono fatta tutte quei botox e tutte quelle niente orrore che ho trovato in quei messaggini. Non è rifatta, Mi sono... No, rifatta, guarda, ma perché devono dire che la mia bocca è rifatta, che la mia faccia, che sono tutta un botox con dei tacchi? Invece io no. I tacchi li metto sì, perché non so camminare senza scarpe per un problema alla schiena. Ma poi ognuno si faccia i botox suo. E lei non si è fatta nessun botox? Ma sono fatti miei. Vabbè, allora non si può essere più decentemente gradevole per la gente che mi sta vicino. Ma guardi che non c'è niente di male, io lo sto dicendo. Ma io non sto parlando di cose male, sto dicendo che ognuno si fa quello che trova necessario all'età che lo trova. Per me vale tutto, guardi, per me vale tutto. No, però sia... mi scusi, madame, scusi, perché forse mi ho perso un passaggio monsieur, poco fa. Mi dica, monsieur. Ho perso un passaggio. Lei ha detto, è tutto molto sobrio, non parliamo di soldi, non si spende niente, e poi c'è i camerieri, cagonna, e che hai il piume in testa. Ma scusi, ma come tutto sobrio? Non ho sentito. No, sta dicendo. Ma tanto sobrio, poi ha, lei ha fatto una voce strana. No, sta dicendo, Parenzo, che. Ma scusa, che tutto lei ha sobrio, detto, tutto tranquillo. Lei... Feste che non costano nulla, e c'ha quelle che ha la gonna e con le piume sulla testa, e dai. Sì, insomma, quella è una cosa del folklore, bisogna rispettare le origini. Però forma parte della mia, delle mie origini. Però nel video, nel video della trasmissione, guarda, si parla di bottiglie di vino da 5.000 euro. Quella è la data di nascita del mio marito, 1928. Sì, no. Tanto cielo, ce l'aveva quando è nato, invece di metterle la camicia di seta come fate voi, l'hanno messo la bottiglia del Chateau Margaux. Ma è lo Chateau Margaux, adesso voglio dire, lo Chateau Margaux. Pazienza, il cuo- ogni il cuo- famiglia ha le proprie abitudini. Ma sì, va bene, però non può parlare di come dire, di cene o di ricevimenti sobri. Ma in cui... perché no? Dico, ma perché lei non invita i suoi amici a casa? Beh, cioè, lo Chateau, ma scusi un attimo, però io non è che lei posso... Non hai, lei non ha il senso dell'ospitalità, lei non invita i suoi amici a casa. Ma va, ma benissimo. Non paga neanche la pizza al ristorante, cruciale. Ma male, guarda, mi deve invitare, a casa, mi deve invitare a pranzo. Oh, guarda, io le invito. Mangia il pane con l'acqua, mangia se va a casa sua. Ma che vuol dire? Ma l'acqua in buona compagnia, si ricorda che c'è anche il pane e la cipolla in buona compagnia. Beh, adesso il pane e la cipolla, adesso però signora, adesso bisogna dire la verità. E lei, ma per io questo... sto dicendo delle verità. No, però se lei mi dice, io guardi, signora dovrebbe mia, essere siccome vive a Villa Furibonda. Vive a Villa Furibonda. Ci sono dei camerieri che girano con delle piume e con delle gonne. Sì. Le bottiglie da 5.000 euro e mi viene a dire che è tutto proprio, amica mia. Fanno dei rituali meravigliosi, cantano alla luna. Questa è una cazzo, no, non è una cantano alla male. Ma non è una festa al risparmio. Cantano alla luna. Cosa cantano alla luna? Non le è piaciuto? Allora mi faccia una domanda seria. No, ma non sono feste al risparmio. Cantano alla luna. Perché uno deve cantare alla luna? Chi è che è bello ringraziare le forze della natura, e la luna è un bisogna ringraziare la banca, non le forze della natura. La luna fa sognare anche. Ma chi è che, scusi, chi è che si mette a ringraziare la luna? I camerieri? Ma io lo faccio, io quando comincio, adesso devo andare sul terrazzo perché c'è la luna nuova e devo dirle 9 volte benvenuta luna perché tutto il mese vada bene. Benvenuta luna. Ma questa è una usanza che anche nel sud dell'Italia. Questo non costa poco, ma effettivamente questo. Ma no, le cose, che, guarda, lei ha un concetto sbagliato sulle cose belle. Le cose belle non costano denaro. No, scusi signora, però scusi. Costano scusi, sentimenti. E io sono una donna di sentimenti. Ma questo noi non lo mettiamo in dubbio, no, però vado lei... Io vado ai matti perché uno che ha soldi e disponibilità non è un criminale, anzi ha fatto benissimo. Ma se lei mi viene, è chiaro che uno che ha i soldi canta alla luna, ma uno che non c'ha un cazzo non ha neanche il tempo di cantare alla luna, perché deve andare... non li canta, perché non crede più in se stesso, ma si riempie di qualcosa, perché lei dice uno che non ha quella parola che lei ha detto, ma avrà altre cose. Sì, no, ma lei dice che non ci si può deprimere più di tanto. Se uno perde il lavoro, per esempio, non è una cosa grave, giusto? Cioè, perché... Guarda, siccome è una cosa seria, sì. Io li parlo seriamente, sì. Uno che perde il lavoro è un problema serio ed è un problema della società. Non c'è dubbio. Non lo risolviamo facendo due battute qua, una trasmissione è tutta manipolata su un canale che era tutto da vedere. No, non si risolve così. Non è educativo mandare quel tipo di messaggio. Scusi, signora Federici, che perde il lavoro, signora... è una persona che ha dei problemi. Signora Federici, siccome io sono seria e finalmente sì. Posso dirlo grazie a voi, sì. Vorrei che questo concetto rimanesse chiaro. D'accordo, però bisogna essere chiari fino in fondo. Allora, signora Federici, io vorrei capire una cosa. Il suo patrimonio a quanto ammonta? Ma come si permette? Ma io che ne so, deve chiamare il commercialista di casa, io non so queste cose. Ma lei non sa manco quanti soldi ha? Ma no! Scusi, devo sapere quanti soldi ha? Ma io ce l'ho più o meno quanti soldi ho in banca. Io ho quello che mi serve durante la giornata. Non so, oggigiorno è molto più facile tutto. Io non compro niente, non sono una che ama andare in giro a fare acquisti. Non sono diversa, guardi. Cosa veste lei? Che vestiti? Vesto Marisella Federici. No, ho capito, però insomma spenderà per vestire, no, pure no. Spenderà. Ma io ho degli armadi che mi ha lasciato mia madre fino al 3.000. Sì, dunque non spende per vestire. Ma non seguo la moda, ma questo non lo sto dicendo adesso. No, certo. Lo può leggere dovunque. Io non seguo la moda, sono demodé, ho vestiti fino all'anno 3.000 perché non mi interessa. Però guardi, poi le posso dire una cosa? Mi dica. Quando uno comincia ad avere una certa età, sì. capisco quando uno è giovane che uno accumula e riempie bauli, armadi, sì. Quando uno diventa un pochino più saggio si vuole essere leggero, perché nulla di questo io me lo porterò all'aldilà, e per andare all'aldilà bene bisogna essere leggeri, leggeri, corpo, beh, però anima. Bisogna anche avere qualcosa, allora bisogna eliminare un po' il superfluo. Eliminare, ne abbiamo il superfluo, delle, certo, cose, ma io non, ma posso, scusi, negare che mia madre mi ha lasciato un guardaroba, lo devo bruciare. Però no, perché, signora, però no, diciamo la verità. Cominciamo con eliminare, con lei, eliminare la figlia. Lei è molto, lei è una signora molto ricca, diciamolo, ma non c'è niente di male. Ma che vuol dire ricca in che senso? I soldi, i soldi. I soldi non fanno la ricchezza, quello è una volgarità. Vabbè, ma come? Ma la ricchezza volgarità è un'altra. È la ricchezza. È come se un ricco non è ha volgare, problemi. La bottiglia di champagne, chi ha detto che euro volgare? Un ricco non ha problemi. I soldi non fanno la felicità. Ma quello lei è sa i problemi che una persona, a meno che le facciano una craniotomia, lei non ha problemi. Dai, no. Ma una persona normale, anche se è ricca, ce l'ha. Ah sì, ma no, ma certo, tutti possono avere problemi. Anche i ricchi si suicidano, lei anche dice. Anche i ricchi piangono. Anche i ricchi si suicidano. Vabbè. E anche i ricchi si suicidano molto più delle persone che non sono benestanti. Molto di, guarda, più. Guarda, sì. Lega le cronache. Sì, no, ma quello è vero, ma io, guardi, su questo l'appoggio, però lei non mi può dire. Lei non mi può dire. Per altri motivi. No, ma io sono d'accordo, però lei non mi può dire che le feste a casa sua o i ricevimenti sono ricevimenti sobri. Quello no. Sono, come no? Ricevimenti da. Sono ricevimenti sono, in cui si. Ma sobrietà lei intende che cosa? No, sono ricevimenti dispendiosi, cioè dispendiosi. Ma in cui, guarda, questo è un concetto sbagliato. Sbagliato. Io mi posso divertire senza spendere una fortuna. Ma no, ma no, una fortuna, però non è che se li possono permettere tutti questi ricevimenti. Ma no, perché no? Ma no, non è. Vado io a darle lezioni di economia domestica, queste che pensano che fare una festa bisogna chiamare catering, bisogna spendere fortune. Che imparino a essere signore che sono sagge nel comprare, nell'avere. Villa furibonda, Parenzo, ci andiamo, però ci andiamo sicuro. Lei non mi prende molto sul serio. No, no, ma io, ma guardi, io la difendo a spada ma tratta. No, cioè, vorrei fare con lei, con la nuova trasmissione che faremo con il signor Cruciani, una bella diretta da Villa Furibonda. Ma pensa lei quello che arriverà su Twitter, per carità. Ma non sono, io voglio, guarda, venire nella sua casa, cantare, fare una diretta da lì. Mi faccio le cantare, e voglio venire a cantare alla luna. Strani messaggi. Vabbè, lasciamoli stare. Grazie. No, veramente, l'ho trovato. Ecco, quello è la parte che mi addolora moltissimo. Vabbè, ma ho capito, signora, che si aspetta? Hanno tagliato, hanno messo quelle frasi lì, la gente è incazzata. Ma se la prende, perché non se la prendono con il conduttore? Ma no, ma se la prendono con lei, lezione, perché hanno sentito quelle frasi lì. Ma è importante sapersi, ma difendere e battagliare. Ma la ripeto anche adesso. Ma sì, ma lo so che lei le ripete. L'ha messo in un contenitore sbagliato. È colpa del conduttore, di quello là che crede che insegna agli italiani come si va avanti e come sono i ricchi, come vivono i poveri. Questo è umiliante, sia per uno sia per gli altri. Come lotta la signora Federici, come ha lottato, come una leonessa, No, posso dire che aveva benissimo tutto. La roba che mi ha mandato ai matti a un certo punto è stato veramente tutto molto sobrio. Avere dei camerieri che girano con delle gonnelle e con delle piume in testa e gente che ulula la luna non mi sembra sobrio, ma per il resto va benissimo tutto. Cioè non è economico, dai, tu dici, non è una roba... Ma da, cioè... ma da, ma, e dai, ma se lo dici a chiunque, ci sono stato una festa dove c'erano dei camerieri che ma va bene, io non è che contesto. E pure il cuoco birmano. 5.000 euro a bottiglia. Camerieri con gonne e piume in testa. E pizzi. Gente che ulula alla luna. E dai. Francesco da Napoli. Ma su, ma su. Ciao Giuseppe. Dimmi. Dimmi. Francesco. Vabbè, richiamatemi Francesco, su. Marco, provincia di Milano. Sì, buonasera Cruciani. Sì. Se posso, volevo fare una battuta su tre argomenti che abbiamo toccato nella, che avete toccato nella trasmissione. Uno, la mafiosità di Berlusconi. Ha chiamato lei, non è che ho chiamato io. Uno, la mafiosità di Berlusconi. Due, la TAV. Tre, le modifiche alla Costituzione. Sì, però veloce, eh? Sì, velocissimo. Sulla mafiosità di Berlusconi ci sono quattro sentenze, di cui una passata in giudicato, che dicono, vabbè, che nel 1974 Berlusconi a Milano, nel suo studio di Foro Buonaparte, incontrò Tanino Scinà, Mimmo Teresi, Ciccio, sì, Di Carlo e Stefano Bontate, che proprio gentiluomini non mi sembrano. Benissimo, Berlusconi è mafioso. Seconda cosa? Seconda cosa, la TAV. Sì. Cioè, lei dice, se uno va, viene a casa sua e usa le cesoie e rompe la rete, sì, lei non si arrabbia, è quello lì il problema. La, sì, Val di Susa, sì, non è, cioè, è dei valligiani. Sì, è dei valligiani, certo. Quindi, certo, se loro non vogliono la TAV non si deve fare. Sì, bravo. Deve fare. Ma chi l'ha detto poi che la maggior parte... È una fandonia che la maggior parte degli abitanti... Anche se fosse così, sarebbe comunque da fare, perché l'ha deciso la maggioranza del Parlamento. Parlamento di più colori politici. Abusivo. Parlamento abusivo. Non eletti, vabbè, Parlamento nominati. Abusivo. Va bene. Andiamo avanti. Su, anche il Parlamento precedente l'aveva approvata. Su. Prima delle liste bloccate. Tutto abusivo il Parlamento. È sempre abusivo adesso. Avanti. Terza cosa... Terza cosa, le modifiche della Costituzione. Le modifiche lei della dice, Costituzione. Lei dice, chi se ne frega, non è importante. Ma sì, ma parliamo, ci sono tutti i passaggi tecnici. E poi invece si sofferma sul fatto che la Chieng vuole essere chiamata in un altro modo, invece quello è importante. Ma io faccio... Ci sono delle persone, guardi, che sono morte per la nostra Costituzione. Caro Marco, sì, benissimo. Lei lo sa chi è Pietro Calamandrei. Sì, sono morte per la Costituzione, ma nessuno sta in questo momento affondando la Costituzione, soprattutto i principi fondamentali della Costituzione. Se si cambia la Costituzione... No, li vogliono modificare in 448 un Parlamento... Ma quale 448? Ma chi lo dice? Chi lo sostiene? Quale 448? Non è vero. Io capisco che lei vuole fare la trasmissione, vuole fare ascolti e quindi provoca, sì, ma spero che siano solo provocazioni, perché se lei usa veramente questa logica la cosa è disarmante. Sì. Francesco da Napoli, grazie. Corciani, buonasera, sono di nuovo io. Prego, dica. Adesso si senta. Sì. Allora, una nota di colore. Siccome sentivo che prima si parlava di, non mi ricordo come si chiama, che ha avuto 350.000 euro tramite un lavoro perché insomma le cava i piedi a Berlusconi. Ma non è così. Vabbè, sì, non è così, sì. Ho detto una cosa imprecisa. È Libero ha fatto un sondaggio straordinario. Leccheresti i piedi a Berlusconi per 370.000 euro? In realtà, okay, la Begana ha detto una volta alla Zanzara che aveva annusato, odorato i piedi di Berlusconi, nonché le ascelle. Poi, siccome ha avuto un contratto grazie a Berlusconi, sembra di 370.000 euro, anche se la Infront poi nega, allora da qui questo sondaggio. Leccheresti i piedi a Berlusconi per 370.000 euro? Io sì. Parenzo pure per mille, ha detto. Io per molto meno. Beh, molto meno che vuol dire? Molto... Ma se mi dà 300 euro al giorno, io vado, però volevo, no, al giorno è una cosa, e non è che al giorno, chi lo dice al giorno? Io sono giovane, poi mi devo tutelare il futuro. Vabbè, allora... C'è una persona a Napoli, che almeno a Napoli è molto famosa, e ti invito a provare a cercarla su YouTube, perché c'è anche un'intervista che si è fatta su YouTube, si chiama Peppe Fetish, ed è sta fermo al Vomero in una determinata piazza, sì, e lui per 50 euro, ma è vero, non me lo sono inventato, cioè ti chiedo, andai a verificare, lecca i piedi solo alle donne. Io purtroppo non me li posso far leccare, ci andrei ogni giorno. Scusi, non ho capito. Questo qua paga? Paga 50 euro. Lui, sì, percepisce una pensione. Sì. E lui si mangia tutta la pensione. Ma è vero, giuro, non me lo sto inventando. Sta tra Piazza Vanvitelli e Piazza Medaglie d'Oro a Napoli. E lecca i piedi per 50 euro. Ma è vero, è documentata sta cosa. Solo a donne, preferibilmente con piedi molto sporchi. Ma non ho capito bene. A Napoli esiste uno fermo che si chiama Beppe, sì, Fetish, che paga le donne per leccare i piedi. 50 euro a botta. Famoso, credimi, no, ma sarà pure famoso. È un personaggio poi surreale. Parenzo, tu lo conosci? No, ma dico, paga o si fa pagare? No, ma c'è, no, paga lui. Comunque c'è, paga, il video, pare. È un grande Peppe Fetish. Peppe, se ci sono signorine che hanno bisogno di soldi facili e subito, con piedi particolarmente sporchi, da andare a chiedere, è facile trovarlo in giro. Lui finanzia, vabbè, una leccata di 50 euro. Vabbè, indagheremo, grazie. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito, la voglia ce l'ho. E non mi mordere il dito. Non credo che abbia queste fissazioni un nostro caro amico, il sindaco di Bari, Michele Emiliano. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? State? Come andiamo? Eccolo. Non malissimo, ma... Se la cava? È sempre dura. Ma è sempre dura. Lei sta lì a Bari, sempre dura. Beh, mica lì, lotta lui. Lotta, sì, lotta che? Che lotta? Lotta, fa il sindaco lotta, di Bari, fare il sindaco è una cosa complicata, lo sappiamo, eccetera. Senta, scusi, Emiliano, ma lei non sta assistendo un po' a una salita sul carro del vincitore per quello che riguarda Renzi? Lei ha detto che lo appoggia, o sbaglio? In realtà sono stato costretto da voi due ad appoggiarlo, però... Beh, in che senso? Come costretto da noi? Nel senso che è stato stata la vostra trasmissione per la prima volta, sì, a riportare questa mia opinione, ma non è nient'altro che un'opinione. Ho l'impressione che, cioè, lei al congresso voterà Renzi? Che cercano posto sul carro in realtà non trovano neanche il carro, perché parlando con Renzi e sentendolo parlare è evidente che il modello al quale fa riferimento è molto diverso da quello delle correnti preesistenti. Qui semplicemente ognuno in buona coscienza dice quello che pensa, punto. Poi dopodiché non può pretendere di entrare a far parte. Ho capito, ma un Francesco, quello sono d'accordo con lei. Però Franceschini, che ha detto delle cose anche su Renzi pesanti, e anche altri personaggi che prima dicevano quello è fascistoide, sì, uguale a Berlusconi, vicino a Marchionne, eccetera, adesso d'accordo con Renzi. Non è un po' sospetta questa cosa? Io posso dire, Renzi, chiaramente sarei cauto e soprattutto cercherei di evitare che queste persone immaginino che con una loro, come si dice, il loro endorsement possa consentirgli di proseguire tranquillamente nella propria carriera, al di là di meriti e utilità vere per il paese e per il partito. Secondo lei, per esempio, chi fa parte del governo Letta può partecipare a un governo futuro se mai dovesse vincere Renzi, eccetera, oppure no? Assolutamente no, perché quello è un governo del tutto anomalo che lascia il tempo che trova. Peraltro, onestamente, non è che stiano lavorando benissimo, insomma, li vedo piuttosto incartati. Per cui lei dice chi del PD è stato in quel governo poi non è che può entrare, può vivere un'altra stagione, giusto? Beh, bisogna fare un po' come accade in tutti i paesi moderni del mondo, cioè la politica non può essere una professione o un mestiere nel quale uno fa il ministro una volta, poi arriva fino a 70 anni partendo da 30. Ognuno ha il suo tempo, fa quello che può, dopodiché torna a lavorare. Lo stesso Letta, dice lei? Come? Lo stesso Letta, lo stesso Presidente del Consiglio, non è che può... Non lo so se Letta ha un lavoro, però credo che lo troverebbe facilmente comunque. Cioè Letta, dopo l'esperienza della Premier, deve tornare a lavorare, dice lei? No, dico che tutti... Sì, però Letta compreso... Dovrebbero smettere di pensare alla propria carriera come se si trattasse di un lavoro. Lei pure fa il politico, Anche perché poi questi che si giudicano professionisti, no? Che parlano di sé come... se fossero dei salvatori della patria, in realtà le partite poi le hanno sempre perse tutte, quindi insomma, per cui no, però io voglio meglio giocare con l'Under 21. Però scusi un attimo Emiliano, lei dice anche Letta, anche noi siamo molto diretti, lei lo sa, anche Letta una volta finita questo tipo di esperienza deve tornare a fare un lavoro, deve tornare nella società civile a lavorare. Ma questo vale per tutti. Anche per Letta dunque? Ma certo, torni a lavorare dopo aver fatto dal punto di vista, diciamo, della considerazione popolare. Se Letta facesse una cosa del genere sarebbe straordinario. Beh, non assolutamente. Se ne rendono conto. Allora, intanto ti voglio segnalare, Parenzo, che il video di Peppe Fetish che fa quello che fa, leccatore di piedi, circola su internet. Leccatore anche, però dice assaggiatore. Pure assaggiatore. Sì. Una cosa pazzesca, su. Ma sei... C'è una specie di degustazione. Ma al sud, Emiliano ne succedono veramente di tutti i colori. Io sono stato a Bisceglie l'altro giorno, invitato da personaggi politici vari, non di area PD, diciamo, e ho scoperto le cozze pelose per la prima volta. Per la prima volta. Visto come sono buone? Ma è una cosa pazzesca, straordinaria. Ma sono più dolci e callose di quelle nere. Ma una cosa di una bontà. Ma le ha mangiate crude? Assolutamente crude. Assolutamente. Le vanno mangiate crude? Sì, vanno mangiate crude. Lei, mi dispiace che lei, dopo l'episodio che le è accaduto con le cozze pelose, non abbia più. Realtà io ho un traffico di cozze pelose impressionante. Come? Contrabbandiamo assieme a tutta una serie di gaglioffi della città. No, però voglio dire, lei ha continuato a dopo quell'episodio ha continuato a mangiare tranquillamente le cozze pelose. Assolutamente. Non però non le riceve più in dono. Come posso dire, addestrato a mangiare cozze praticamente tutti i giorni. Non so se si conoscono bene gli usi alimentari della città di Bari, ma è una sorta di cibo quasi obbligatorio. Poi non fa ingrassare le cozze, perché sennò non ti possono eleggere sindaco. Poi non fa ingrassare. Aprire le cozze senza rovinarle non è semplicissimo. No, e poi non fa ingrassare, questo bisogna dirlo. Va bene, proteiche. Abbiamo un po' di colesterolo, però. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Michele Emiliano, sindaco di Bari, Partito Democratic, Partito Democratico, anche se si vergogna un po' di essere Partito Democratico, no? Lei si vergogna, sì, mi dica la verità. Un po' sì. Ogni tanto bisogna di fare politico, che è una cosa. Ma no, vabbè, questo perché si vergogna di fare politico, Emiliano? Non bisogna... Onestamente, la gran parte di quelli che fanno politica, onestamente, fanno schifo. Insomma, non sono all'altezza del compito. Fanno schifo. Comunque, lei conferma, torno a fare il magistrato quando finisco di fare il sindaco, giusto? Ovviamente, se non c'è nient'altro da fare. Vabbè, ma lei adesso già torna penosamente a chiedere a qualcuno di darmi un uno schifo di posto, purché sia, è meglio tornare a lavorare. Io sono magistrato di Cassazione. Già lei mette le mani avanti, una volta ha detto non mi candiderò mai alla regione, adesso invece ci ripensa. Non faccia sempre così, però. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua. Ti piace così? Vabbè. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Oh, caro Parenzo, che facciamo sentire? Facciamo sentire qualcosa, che dici? Ma io farei risentire le piume della, i camerieri con le piume che ululano alla luna. No, dell'utri su mangano, dai, dell'utri su mangano, non so, quella ancora non abbiamo tagliato la signora Federici, dell'utri su mangano, dai, che è un nostro must di oggi, signor Dell'Utri, che ancora come eroe mangano. Mi dica la verità su sta storia di mangano su cui sono tornati i giudici. Lei è ancora convinto che sia un eroe per il fatto di non aver parlato? Ma non c'è dubbio, ma per me il mio eroe, io l'ho spiegato e lo dirò sempre, ma chi avrebbe fatto una cosa del genere? Quando in galera, sì, ammalato, gli dicono dici qualcosa di Dell'Utri di Berlusconi e stasera sei a casa. E questo ha detto, io non ho niente da dire. La cruda verità. Le voglio segnalare, Emiliano, che il PD è alleato indirettamente pure con Dell'Utri, eh? In che senso? Beh, il PD è alleato con Dell'Utri, col partito di Dell'Utri. O no? Partito di Dell'Utri, di Berlusconi, che è stato citato nella sentenza. Cioè, siete alleati, se ne renda conto, se ne faccio una ragione. No, tragicamente me ne sono reso conto. Ma Dell'Utri le fa schifo a lei? No, però... Come personaggio? Ma me, sinceramente, è un personaggio del quale la storia italiana avrebbe potuto fare a meno. Vabbè, questo... ma quando lo sai... Allora, ovviamente la sua dimensione pubblica e non come persona. No, vabbè, quello sempre. Senta un attimo, ma la decadenza di Berlusconi, ma molti sostengono, ma non c'è manco bisogno, perché bisogna fare sto passaggio in Parlamento? La legge è chiara, uno si, cioè, sarebbe meglio manco... No, proprio dal punto di vista tecnico, diciamo. No, che è tecnico? Cioè, non vale la pena nemmeno votare, o no? Ma il regolamento della Camera prevede che si voti e vabbè, d'accordo, però si voterà, appunto. Adesso sinceramente io non sono un esperto di regolamenti parlamentari. Però uno dovrebbe essere anche una cosa automatica, no? Cioè uno dice vabbè, l'interdizione come sanzione penale, quello, l'interdizione è automatica. Questa invece è una normativa, diciamo, che ha a che fare con la legge elettorale, quindi non è una normativa penale. La legge Severino, e quindi è chiaro che ci vuole un organo che dichiari la decadenza. Comunque, che succede se il PD non vota questa la decadenza, secondo lei? Che può accadere? Che può accadere? Che salta per aria tutto il partito. Salta il partito, Certo, è una linea rossa che non può essere varcata. Bisogna votare, basta. Parenzo, hai capito? No, su questo non c'è discussione, mi sembra. Cioè, il PD è tutto. Più spalle al muro del PDL in quella vicenda. Ecco perché è pazzesco che il PDL non comprenda la posizione del PD. E dunque Berlusconi, dia un consiglio a Berlusconi, lei che fa il magistrato. Ma innanzitutto dare dei consigli a Berlusconi in questa fase è ormai tardi. Dia un consiglio così da amico. Così, di una buona conclusione. Si dimetta prima dal Senato. Io credo che, ecco, tirarsi fuori da tutto questo bailam con un gesto, diciamo così, di dignità, anche di superiorità dal suo punto di vista, forse migliorerebbe le cose, probabilmente, però, ed è bene chiarirlo, questo nessuno lo dice, non sono cose che non si spiegano agli italiani. Berlusconi, cioè, teme che nel momento in cui non ha più la protezione del ruolo parlamentare, di poter subire delle misure cautelari, perché è per una persona pluricondannata, e quindi è possibile che in un... Ma lei ce lo vedrebbe in carcere Berlusconi? Implicato, oltre l'esecuzione della pena per la condanna, poi ci sono altre condanne, potrebbe essere una misura cautelare. Ma ha visto cosa ha detto il suo D'Alema oggi? Che ha detto D'Alema? Che ha detto? Dice che con Renzi... Ho lavorato tutto il giorno oggi, quindi non ho sentito. Dice che con Renzi, D'Alema oggi ha detto che con Renzi ci sono giornali, TV e tutto l'establishment del PD, che sarà una lotta impari. Bah, cioè, quello era, il contrario era, qualche mese fa era il contrario, cioè, non mi pare che sia... Scusi, ma lei taglierebbe i cosi dei cantieri Notab, Emiliano? Con le cesoie, farebbe, saboterebbe il cantiere? Io per me gli gli atti illegali non esistono. Okay, non sono, sono dei cretini quelli che sostengono. Sono dei cretini quelli che sostengono una cosa di questo tipo. È un modo di lottare completamente sbagliato che crea moltissimi problemi, perché anche quando si perde una battaglia, e mi è capitato di perdere delle battaglie giudiziarie, politiche, bisogna rimanere nell'alveo stretto della legalità. Chiunque mette in pericolo la vita delle persone è un criminale, punto e basta, e non ha giustificazione. Cioè, i notav che compiono in una democrazia. I notav che compiono sabotaggi, chi li istiga? Sia questo scrittore Eri De Luca, lei conosce bene, che ha detto che è legittimo sabotare i cantieri della notav, ma si rende conto o no? Vabbè, è uno scrittore. È uno scrittore. Licenza poetica, che no, che licenza credo poetica. Credo che sia onestamente sbagliato legittimare questo. Senta, un'ultima cosa, rimane però che tutta la vicenda della TAV, che vabbè, quello è un altro discorso. Di Esposito, se non mi ricordo male, penso che si chiami così. Sì, sì, che mi ha riempito di male parole. Io a quel punto mi sono messo a studiare, l'ho approfondita, in tutta sincerità non sono affatto convinto che sia un'opera necessaria. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Però siccome ci sono delle regole attraverso le quali poi l'opera viene dichiarata necessaria e strategica, bisogna seguire quelle regole. Se si vuole contestare, si contesta secondo le norme e secondo le regole. Scusi Emiliano, un'ultima cosa, ma le Molotov è un'operazione inaccettabile. Scusi un attimo Emiliano, un'ultima cosa, la vedo, la sento un po' stanca stasera, ma il giudice Esposito, no, che è quello della Cassazione di Berlusconi, qualche errore l'avrà pure commesso, no, in questa vicenda? Mi dica la verità. Assolutamente, non si rilasciano interviste sulle sentenze, è la prima volta nella storia della magistratura italiana che un magistrato rilascia un'intervista su una sentenza e in più prima ancora di avere depositato la motivazione. Per cui qualche ragione questi qua che dicono che Esposito ha un pregiudizio nei confronti di Berlusconi ce l'hanno. No, questo non significa affatto che ha un pregiudizio. Beh, significa che ha sbagliato a parlare, sono due cose completamente diverse. Fa bene il CSM a punirlo? Sì. Beh, innanzitutto non so se sia un'ipotesi specifica disciplinare. Vabbè, ma sarebbe, oggi, sarebbe il caso di punirla. Tipizzato. Sì, al di là delle cose tecniche, sarebbe giusto punirlo o no? Eh beh, no, la questione tecnica è fondamentale, perché se non c'è una, diciamo, un'incolpazione specifica, quella condotta non è prevista. Vabbè, ma lasciamo perdere adesso le cose. In linea teorica, uno che parla in io se fossi il presidente della Cassazione con Esposito mi sarei molto arrabbiato, perché gli avrei detto potevi evitare. Ma per una cosa del genere uno può smettere anche di fare magistrato, sarebbe giusto? No, non mi pare un fatto grave, è un come posso dire, una mancanza diciamo così dal punto di vista mediatico e stilistico piuttosto fastidiosa, ma nella sostanza è non cambia nulla. Vabbè. Però molto fastidiosa nel contesto in cui è stata adottata. Parenzo, saluta Emiliano, ci sentiamo la prossima volta, lo sento un po' stanco stasera, non c'ha voglia di scherzare. Il digiuno, farà il digiuno col Papa. Sono giornate anche piuttosto dure qui. Vabbè. A Bari. Ciao, perché grazie. Abbiamo avuto un dramma notevole. Grazie Emiliano. Grazie, grazie a presto. Sergio, provincia di Pescara, buonasera. Ad esempio, Vicente, sì. Volevo dire una cosa alla signora Federici, si chiama. Sì, sì. Che saggio è stato mio padre, che ha cresciuto tre figli, accampati, uno l'ha fatto andare all'università con uno stipendio d'operaio. Vabbè, ognuno si sente saggio, non è che i ricchi non possono essere saggi. Sì. Su. No, perché siamo stati anche felici, come sicuramente è felice la signora, insomma, quindi voglio dire che i soldi non fanno la felicità, può avere anche ragione, ma la saggezza è un'altra per me. Seconda cosa, volevo dire, la trasmissione che si faceva prima d'estate si può fare, a me piaceva di più. E chi se ne frega? Non se ne fregherà lei. Ma io totalmente me ne fotto, guardi, maniera totale, io non so... Non si può, posso dire perché? Ma lei può dire, quello che vuole, non interessa a nessuno, ha capito? Perché facciamo più informazioni? Come non interessa? Ma non interessa a nessuno. Sicuramente interesserà a chi sta sentendo. Ma non interessa a nessuno, le posso assicurare. Qualcuno ci sarà che la pensa come me. Ma sì, quindi probabilmente sì. Esatto, quindi se si potesse anche, diciamo, fare un cambio, magari un mese la Zanzara, un mese si può fare. Sicuro, guardi, avverrà certamente questa cosa. Io lo posso assicurare, sicuramente avverrà. Sicuramente avviene, non si preoccupi, stia sereno. Un'altra cosa? Sì. Sì, volevo dire questo. Lei mi dice il voto non va bene, votiamo e non serve a niente. Ma il chi l'ha detto votiamo e non serve a niente? Scusi. No, questo lo dico io. Ah, lo dice questo lei. Lo dico io. Ok, va bene, perché effettivamente vota il Movimento 5 Stelle, 7-8 milioni di voti, non so quanti sono, buttati nel cesso perché non sono serviti a niente. Ma lei, sono loro che l'hanno buttato nel cesso però? No, sono gli altri che l'hanno buttato nel cesso, secondo me. Ma come me. Gli altri? Sono quelli che non hanno voluto fare l'alleanza, scusi un attimo. Non è così. I 5 Stelle sono altri che hanno buttato al cesso i voti dei 5 Stelle? Sì, il PD che non si mette d'accordo, non sanno neanche anche loro se devono andare a sinistra. Parenzo, ma questo qua che dobbiamo fare con questo camion? Lo dici tu, no, che dobbiamo fare con questo? Questo qui, su questa cosa dell'estate non mi interessa. Ha ragione invece sul fatto che indubbiamente il padre è stato un genio e un eroe. Perché aver fatto studiare tre figli con uno stipendio, perché cazzo, sì, come si fa a non capire? Cioè, se hai tanti soldi è facile, sì, fare le migliori scuole. Vabbè, poi il padre, no, invece questo va ascoltato, questa roba qui va ascoltata, perché gli eroi a cui dovremmo dare parola sono, sì, questi. Cioè, oltre a quelli che hanno, che ululano alla luna e che mettono delle straordinarie gonne e delle penne sulla testa, che è bellissimo, io adoro molto questo, sì, ma poi c'è questo signore che racconta del padre con un'ammirazione, con una, che è davvero stupendo. Va bene, Sergio, ha sentito questa sviolinata? Questa sviolinata di Parenzo? Secondo me Parenzo dice quello che pensa, quindi penserà questo, insomma, è sviolinato, secondo me. Vabbè, poi comunque, Sergio, un'altra cosa volevo dire, sì, quindi il voto secondo me non serve, perché ripeto, secondo me, ma io non ho detto questo, lo dice lei. No, lo sto dicendo io, perché ovviamente il 25% di persone che hanno votato per un partito non contano niente. Non contano niente perché loro non sono voluti entrare al governo. Poi due, il referendum non serve a niente, questo l'ha detto lei. Sì, ho detto, certo, assolutamente, sono okay, convinto. La piazza non serve a niente, per questo l'ha detto piazza, lei. La piazza serve a fare caciara. Sì, okay, fare. Lamentarsi non serve a niente, che a lei sono pure sui coglioni quelli che assolutamente si lamentano. Sì, assolutamente. Ok, allora chiedo a lei, che cosa devo fare io per vedere riformato sto paese? Andare a votare quelli che lei preferisce, la democrazia è fatta così. La zanza. A proposito di leccamenti di piedi, non è che abbiamo voluto fare una trasmissione sui leccamenti di piedi, come avete sentito, ma insomma la vicenda della Began, leccare i piedi, 370.000 euro di consulenza, siamo arrivati a che cosa, caro Parenzo? A Peppe Fetish. Peppe Fetish. Ho bisogno di piedi, per Dio, perché se no sto male, un'overdose di piedi. Non sappi adesso io che cosa dico, scegliendo te un piede per amico, ma il mio destino è vivere i piedi che siano tutti i giorni sconosciuti. Tanto pare che sia 30 euro la roba, 30 Beh, euro. È lui che canta, beccato da chi? Da Di Pre, vabbè, ma insomma siamo al trash più assoluto. Gianluca dalla provincia di Roma, buonasera. Salve Cruciani, senta, io ormai l'ascolto da tanto tempo e sono giunto a una conclusione, sì, che lei in realtà, guardi, lo dico in maniera molto elegante, è l'esempio vivente di clausola vessatoria. Di, cioè, clausola? Lei veramente di clausola vessatoria, cioè lei è capace semplicemente a prendere il culo tutti quanti noi, sì, e a me personalmente ascoltarla non mi cambia proprio un cazzo. E allora perché chiama? Non ho capito. Ma no, ascoltarla, no, ma le spiego, ma cioè, perché chiama allora? Ma perché le, chiama? Ma le, no, no, ma le spiego, cioè sono giunto adesso alla conclusione dopo tanto tempo che l'ascolto. Pensate. Perché in realtà, ma pensate, ma che in realtà lei, sì, giustamente al termine della trasmissione ha fatto tanto audience, torna a casa tranquillo, non ha fatto altro che aumentare il cachet prendendo per il culo tutti quanti. A me invece che l'ascolto, sì, torna a casa la sera, non mi è cambiato completamente un cazzo. Quindi io le dico, perché lei non fa altro che prendere in giro tutti quanti noi, perché intervista Dell'Utri che appartiene all'Italia dei delinquenti, appartiene, sì, la signora qua Madame che appartiene all'Italia dei ricchi, quell'altro che appartiene all'Italia dei precari, tutti quanti questi italiani, abitanti, sì, delle varie Italie, sì, da loro non si parlano, no? Sì. Lei ha in mano uno strumento talmente bello che sarebbe, che può essere quello di far, di raccogliere le esigenze dell'Italia e trasmetterle sui tavoli degli altri. Invece, sì, lei sa che fa intervista nei vari abitanti di questa Italia, li prende tutti per il culo, la sera tutti quanti rimangono nel loro, esatto, non cambia niente, quindi i ricchi rimangono ricchi, beati loro, sì, ma i poveri rimangono poveri, ahimè. Renzo, mentre lei, che appartiene anche lei ai ricchi, ovviamente torna a casa, sì, si fa i cazzi suoi e tanto niente. Quindi a me ascoltarlo a me cambia un pezzo. Renzo, ci pensi tu con questo qua? Chiami tu o chiamo io? Chiamo l'ambulanza. Davide, chiami tu o no? Lo sai perché l'ambulanza è a spese dello Stato, quindi tanto, sì, paghiamo noi, a te che te frega dell'ambulanza. No, noi abbiamo un servizio privato. Ah, che poi è meglio metterti dal sicuro. Sì. Meglio provvedere, Gianluca, meglio provvedere, su, meglio provvedere, bene, dai. Ma guarda, mi faccio trovare sulla strada, diglielo, okay? Ma fatti trovare sulla strada, perché guarda che il caso è grave, se lei ha riflettuto così a lungo, sì, per, sì, partorire, sì. No, io non ho riflettuto, adesso, perché ascoltando uno che lava i piedi da Napoli, quello l'altro della Madame che non me ne frega proprio niente, ascolta tutte queste cose, ma a me alla fine torna a casa, ma chi me lo fa a me? Ciao, grazie, ciao. Vabbè, è andato. David da Milano, David. David. Vada, David. Salve. Ascolti, volevo solo dire questo in merito ai Notav. Sì. Secondo me hanno perfettamente ragione, perché io ho provato sulla mia pelle cosa vuol dire un esproprio da parte di questo Stato, sì, oppressore praticamente. Oppressore, e lì, certo. E lì di gente che è stata oppressa con gli espropri, sì, dei terreni. Che cosa le è successo a lei? Cosa le è successo? Scusa. Mi hanno espropriato un pezzo di terra per fare una strada. Solo che la strada è stata fatta in maniera tale da favorire un altro pezzo di terreno dall'altra parte. Vabbè, guardi, non me ne frega niente, succede. Immagino che non le frega niente, a lei non le frega niente di niente. Ma no, ma lo succede, quindi, ogni tanto per fare un'opera che espropriano, succede. Succede. Allora, quando si espropria si paga il terreno. Beh, l'hanno pagato, e hanno sbagliato, benissimo, faccia ricorso, faccia le cose, che vuole fare? Vuole sparare? Ma io non parlo del vuole mio sparare? Caso, perché non me ne frega vuole niente. Sparare? Vuole uccidere? Io ho fatto ricorso e il comune alla fine ha dovuto pagare. Oh, l'hanno pagato, benissimo. Che cosa c'entra questa cosa con i Notav? Ma che c'entra? Cosa c'entra? Perché quella gente lì ha subito gli stessi espropri che ho subito io, probabilmente non tutti hanno avuto la fortuna di Ma non è vero. Ma cosa ne sale di quanto li hanno pagati? Perché ci sono stati. Ci sono stati e ci saranno i risarcimenti. Senta, Davide, come si chiama? Lei ha detto un'altra cosa. Non stiamo parlando di Notav hanno ragione o hanno torto dal punto di vista dell'oggetto. Ormai se ne è discusso a lungo e non me ne importa più nulla di discuterne. Il punto fondamentale è questo: qualcuno sostiene, ha sostenuto, che si può boicottare un cantiere, sabotarlo, ha capito? Sì tutto contro o no? Contro lo Stato ladro si può fare tutto. Benissimo. Certo. Poi però se la mettono in galera, al gabbio, lei sta muto e si becca la galera, ha capito? Infatti in quel giorno mi sono fatto mezza giornata in guardina. Benissimo, perché sono muto, posto, silenzioso, i carabinieri mi hanno preso, mi hanno buttato nel campo praticamente rischiando di farmi quindi io adesso dentro ho una cosa che qualunque cosa si possa fare contro questo Stato io la farò, ma la faccia benissimo volta. Poi certo. Però se va al gabbio poi non protesti contro lo Stato oppressore, vado al gabbio certo, io mi assumo le mie responsabilità e vado benissimo al gabbio. Infatti, però se posso distruggerlo lo distruggo benissimo, distrugga tutto. Infatti questi qua quelli che mi fa specie Parenzo è che questi qua poi dicono beh no, è lo Stato ci ingabbia, poi fanno le campagne contro per la liberazione, no, che se ne frega di tutto perché siete dei coglioni che non avete che siete lì che pontificate da tutte le parti senza avere nessuna Ma perché io mi dovrei trovare nella sua stessa situazione, scusi, per poter pontificare? Non è che io, non è che per poter pontificare o dire qualcosa mi devo trovare per forza nella sua situazione, scusi, No, ho capito, però scusi, voi chiaramente lei si mette sempre su un piedistallo al di sopra. Ma quale piedistallo? Io sto dicendo semplicemente che quando uno usa la violenza, poi non si deve aspettare, che la gente denunci e che uno va a finire in galera, punto e basta. Certo. Carlo dalla provincia di Cuneo. Benissimo, lei vuole andare in galera, va, si accomodi. Carlo, provincia di Cuneo. Eccomi, buonasera. Vada. Guardi, io telefono, sono velocissimo, sono agli antipodi dell'ascoltatore che mi ha preceduto pochi minuti fa. Io vi ascolto da poco tempo, purtroppo mi dispiace perché mi divertite moltissimo. Vi faccio i complimenti in generale, questa sera in particolare. Vabbè, vada diretto che abbiamo concluso. Sì, allora, l'intervista alla Federici, siete stati molto bravi, brava anche lei che gli ha tenuto testa. Io dissento su tante cose che ha detto la signora Federici, su una cosa però forse sono d'accordo con lei. Su che? Sul fatto che le persone che purtroppo decidono di suicidarsi anche perché hanno perso il lavoro probabilmente hanno altre ragioni, non solo quella, perché va bene. Però... Carlo, la ringrazio, ci sentiamo caro Parenzo lunedì, ciao. Saluti. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ringatto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.